dopo la sera. E boia. E beh, uscia a bocco. Ah? Uscia a bocco. Mangiato hai? E io. Meglio così, sono contento. Sì, stiamo aspettando a fare ora perché devo andare a Iti. Ma fa cosa? L'atto funerale? No, c'è la messa di mia zia. Ah! Non cambia nulla a me. Cazzo, tu sei sempre di funerale, cazzo, questo periodo, boh. Antonello, e cosa vuoi fare? Lo so che è la colpa tua. Purtroppo. Purtroppo. Adesso non ti ho sentito. Purtroppo è così la vita nostra. Ah beh, quello già è vero. E tu mangiato hai? Mangiato e mangiato anche i cioccolati. Quattro ne ho mangiato. Speriamo che facciamo fare cagaglia. Anche venga la rea. E appunto. E dove? Via. Ecco lì, cazzo, sta guardando il televisore. Ah, in comando. Mezzo ricoglionista. Cazzo, da luta, Ma le da? Le mie ce le ho io, grazie a Dio me le ho, me le avevo piano piano, già lo sai. E mangio, perché cazzo io, a me mi viene fame quando mi mangio anche a me, non solo l'altro. Cazzo, sono ingrassato minimo 10 kg questo mese, forse di mangiare due gambe di pollo e pasta al forno e cose del genere. Adesso mi fai metà dieta. Che qualcuno sa? Ho detto che metà dieta fra poco. A fotti al latte andiamo. Meta. Mi faccio da qui a cosa? La stazione vecchia qui. No, a casa tua andiamo. No, io cosa c'è? Ah, vabbè, possiamo anche andare lì se vuoi. C'è un amico mio che c'ha il vino lì. Vino buono, acqua vite. Ma ci fermiamo, mangiamo salsiccia e ci facciamo compagnia alla salsa di poi. E così rientriamo a quattranchi. Cosa sto dicendo? Questo c'ha, la fa lui, fa la salsiccia, fa il... tutto lui fa. C'ha vino buono, acqua vite, quindi noi ci sediamo piano piano, ogni tanto una passata, poi alle 7 alle 8, tanto alle 7 e mezzo lui piglia e sale a Sassari, ci facciamo accompagnare, prima a te, cioè prima a me poi a te. E vabbè, intanto lasciamo la macchina dove sotto casa tua, non c'è bisogno. Sì, sotto casa sua, in campagna lui abita su per andare a Usilo, non è che... Poi la mattina quando sei sano andiamo a recuperarla. Beh. Al limite andiamo con motorino a sventiare. E andiamo con mister Uba Uba. Santa Maria della Palma. Anche si può fare anche così, ci facciamo accompagnare. Ciao Alvarino. Sentito là, Antonio. A chi? Quello che ha parlato. No. C'è una difesa allucinante, una portante abbastanza forte, copre tutte e due. Io lo sento veramente vicino a te. Ho visto che sta incominciando a camminare Gavino con le zampelle. Gavino, bisogna che si faccia un po' di cosa adesso. Ma per cosa è andato lì? Per problemi di gambe o cosa? No, quello ha rifatto nuovamente l'intervento quando aveva successo l'incidente, ha capito? Che cazzo, e quindi deve stare almeno un mesetto adesso a casa. Non ti ho sentito adesso. Non ho parlato io, stavo parlando con gli altri. No, sei mezzo a correre, Giuseppe. Mettiti in un punto buono. Guarda adesso, 1, 2, 3. Adesso va bene. Ti stavo dicendo, allora deve stare un mese lì ingessato. Ah, no, non è ingessato, gli hanno fatto questa piccola operazione. Ho visto che stamattina stava camminando, le zampelle, sta facendo abilitazione. Penso che tra un 10 giorni lo manderanno via. E poi vabbè, poi deve fare un nuovo controllo, già lo sai, no? La tassa è quella. Il problema è che quando si siede nell'aereo. Quello è il problema, quello che non c'è nessuno che... O sale Nico a Bergamo a scendere con lui, o se no si fa il viaggio in nav da solo. Hai capito? Asco, facciamo una cosa, saliamo assieme. Prima di partire ci beviamo un paio di mazzutti. Poi saliamo in aereo, l'accompagniamo e poi ci pigliamo un auto in albergo, cerchiamo un paio di ragazze professioniste, ci divertiamo e poi ogni mattina ci pigliamo un paio di mazzotti verso le 8 e mezzo alle 9 per sicurezza e poi arriva Malghero, andiamo lì a Santa Maria della Palma e ci divertiamo. Magari potessi farlo, magari avendo il sole l'avrei già fatto, sarei già partito a Bergamo. No, ha potuto usare l'Exot, per dire, no, ti bevi la mazzotti e sei bello già, tranquillo e ce la fai a salire. No, il fatto che io a Bergamo la conosco perché ci ho già lavorato io a Bergamo. No, io non lo conosco per niente, però neanche io penso non avrei neanche paura, verità, perché, vabbè, salgo nei pali, quindi non me la fotti nulla. Basta che tu lo guardi giù, pensi solamente, cioè ti metti in testa che sei non in aereo, che sei in una macchina, tutto è la questione della salita. Dopodiché una volta che sei orizzontale ti dimentichi. Ma il problema, sai cos'è? La partenza e la discesa, tutto il problema è quello lì. Sì, vabbè, la discesa non è un problema, la salita è che è il problema, la discesa no, ma la salita sì. Sì, non è che basta che stai davanti, ti metti la cintura e stai tranquillo, e capito? E non guardi niente, fai finta di addormentarti. E non, manco te ne accorgi. E cosa sta succedendo infatti? Ma salire sopra, ti prendi 20 di gocce di extra, ti rilassi, bello tranquillo, ti metti rilassato, come se tu prendi il letto, cazzo, se lo metti appena in su, poi lo metti orizzontale, poi quando sei arrivato lo metti appena giù. Quando sei arrivato prendi i bagagli e sei tranquillo. Il problema è dopo. Perché tanto quando sei arrivato con i bagagli ti controllano, devi andare alla, come si chiama, controllare se i bagagli sono i tuoi, il problema è quello. Giustamente, c'è la dogana, dunque ti fanno il controllo lì alla dogana. E appunto per quello ti sto dicendo, ti fanno il controllo, quello è il problema, non è altro. Il problema è la dogana, hai capito? Adesso vediamo, adesso l'importanza è che adesso stia un po' tranquillo e poi andare a recuperarlo non c'è problema, andrà il padre o andiamo io e lui, vediamo. Sì, perché come sei arrivato lì? Da solo ci arriva, non penso sia arrivato da solo. C'era la madre, c'era. E appunto, ci andava la madre a prevallo. No, all'andata è andata la madre, al ritorno scenderà il padre, penso scenderà il padre, vediamo. Lo aggancia, ti mette il guinzaglio al collo, lo aggancia a sedile, gomiti. Però un pugno a capo, tipo quello che fa, che faceva coso, la bonania di Bud Spencer, e visto hai i pugni che tira. Se no gli fa bene un paio di mazzotti prima di salire. Lo sai come lo fa nuovo? Dopo 5 minuti sai come ti si rompe? Io lo so. È la lutte. Un po' di raffreddore. Me ne sono accorto che sei raffreddato anche tu. Questo cambiamento del tempo. Ma è un cambiamento di tempo repentino. Prima c'è freddo, poi c'è caldo, poi c'è freddo, poi c'è caldo. Là fa 30 centimetri di neve, qui non ne fa neanche una goccia. Adesso se la va a piovere, tu la neve di acqua tu. Per me non ne fa manco una goccia, né oggi né domani. La notte piove, da stanotte inizia vento forte, temporali e c'è messo pioggia anche domani. Sì, temporale, già piglia ancora il temporale. Infatti che non scarichi sopra, questo lo io. Vabbè, l'importanza che il baracchino e quella roba siamo tutti distaccati, poi per il resto si può prendere tutto, dove dico io. Beh, quello sì, importa che sia a posto. Per il sicuro o meno c'era il pozzo. Ah, c'è nel distacco del PL del baracchino, tanto. A meno glielo tolgo e se ne c'è pure delle scatole anche lui. E non è questione di piede del baracchino, è questione d'antenna lì, lo dico io, ho staccato l'antenna e messa dentro. Una volta appoggiata dentro si rifanno gli attacchi e poi si rimette di nuovo sopra, il discorso è quello, però prima di fare un lavoro del genere bisogna cercare un muratore bravo, si è in gamma in modo di piazza le gaffe, una attaccata all'altra, bene cementate che non si muovano, il discorso è quello lì, dopodiché pigli ci infili il palo dentro e la fanculo. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi quando rientro da Italy, dai, è capito Antonio. E vabbè, già sono all'ascolto, se ti vuoi parlare portate al limite, già è stato già arrivimi da Italia in poi a Italy, a meno che non sei ripetitore dove sta di pace per forza. Ma non lo so se me lo porta a prezzo, non lo so. Cazzo, con questo portate a prezzo voi. E accidenti, intanto già arrivi da Rimi, adesso già arrivi a voi. Sei neanche a un chilometro in aria, quindi arrivi per forza da Italy a casa mia. Tranquillo. Sì, vabbè, ma io devo andare dopo c'è il convento, capito? E vabbè, come vuoi tu, intanto già sono qua all'ascolto. Nel caso chiamo. Più tardi, dai. A dopo. Ciao. Ora. Sì, sì. Antone, tu sei? Ehi, dimmi. Il potabile sto usando, bene mi senti? Ehi, a voglia che ti sento bene. Segnale 1, ma ti sento. Ah, caro. Tu sì che mi cambi il nervo. Dove sei? Attaccato alla finestra, sì? No. E allora? Con l'antenna esterna? Eia. Ehi, non è che sia granché con l'antenna esterna. Segnale 2 e 3, sì, non è che sia molto. In confronto come arrivavi prima, la verità si dica. C'è un lavandino come antenna. Ehi, vabbè, a tutti i dini, io andavo a vedere Matteo. E le cose che arrivi, a voi, a me non ti sento. Col gomino sono, vicino alla finestra, cosa, per forza ti arrivo così. E meglio così, sono contento. Ma non ti ascolto, intanto siamo tutti qui. Sì, almeno già ascolto anche io, dai, col gomino, non c'è problema. Se arrivo da te, dai, già ascolto a tutti anche io. L'altro giorno, ti ho detto, installa quella cosa lì. È vero che sei tranquillo, invece non ha attaccato niente, all'una e mezzo sono andato via da lì. Dopodiché sono andato su a casa e basta. Sì, adesso già posso, non potevo prenderlo, mi veniva male. Ah, capito, va bene, non c'è problema per quello. Frega, ti ricordi che vivi adesso. Sì, l'importante è quello che ci sentiamo, poi se me lo porto appresso pure quando è. Esatto, sì, quello ti sto dicendo. Sì, almeno ci possiamo sentire. Tanto siamo tutti qui, io devo stare di là, cosa deve fare là? Te vai nuda. Sì, infatti. E visto che io me lo porto sempre appresso il portatile, io anche coso, anche Giuseppe, Doncino. Se la porta appresso, la mattina, la so portare dove al circolo, poi torno indietro, quindi è come un telefono, tale uguale. Sì, infatti, se sei vicino già lo senti la persona, non c'è problema. Appunto, malissimo, te lo sto dicendo per quello. Cosa ti porti un barchino da 27, cazzo, quanto era lunga un metro? Va bene, quello che abbiamo, basta, avanza. Esatto. Esatto, sì, è buono. Tutto sta a girare, girare, girare, girare. Ma sono un po' stato leggero, troppo ti ha preso, sassari. Per dire, c'era un piatto antenna da fare. Te ne prendi due, fai l'impianto antenna, sei a posto. Dopodiché, dopo te hai finito, sei a posto. Ti incassi i soldi. Poi, per dire, vuoi parlare con tua moglie, cosa del genere. Qual è il problema? Antenna esterna, tutti i pigli portatile, e parli tranquillamente con lei. No, ma mi serve per lavoro, io ho questi brumi, non funzionano bene. Già va bene, sto dicendo, io non li uso io il telefono, già l'hai visto. Io uso il portatile, quando devo parlare con qualcuno, piglio il portatile, chiamo con quello, va a far culo, non devo stare a cazzo col telefonino. Perché spendere i soldi quando ce l'abbiamo gratis, scusa? Infatti. PMR già è utile, da. È utile per quello sì, non per altro. Anda bene Mela, solo tu ci sei qua. Eh? Ho detto solo tu ci sei qua. Per il momento sì, a meno che non ci sia qualcun altro che voglia che ci sia sotto. L'altro giorno eravamo in 5 o 6, eravamo. Ho capito. Anda bene Mela. D'accordo, io cosa ti ho detto l'altro giorno? Ho detto, attacca, attacca, fregatele. Sì, fai in fretta, attacca. Te l'ho detto com'era la situazione, no? Mi veniva male, oggi ci sono riuscito. E vabbè, comunque sia, a me lo ce l'hai adesso. A me lo esci, cioè, ci sentiamo, è utile. A me non disturbi la televisione, non disturbi nessuno. E sei tranquillo, nessuno ti rompe le balle. Sì, infatti. A Marco è che non ho sentito più. Manco giù. Marco già ti sente a te, non ti preoccupare. Se ti sento io ti sento anche Marco. Sì, però non l'ho più sentito. Cazzo, neanche giù. Dove parla sempre. Non è più entrato. Non ti preoccupare. Già ti chiamano stasera, non ti preoccupare per quello. Qual altro è quel sito che ti ho detto io, di quel digitale? Sì, ne parliamo a voce, dai. D'accordo, ok. Ciucchicciù, ciucchicciù, ciucchicciù. Ciucchicciù, ciucchicciù, ciucchicciù. Antone, devo uscire adesso, che devo andare qua vicino a fare una commissione. E va bene, non c'è problema per quello. Fai pure il Natale. Avanti, ciucchicciù, ciucchicciù, ciucchicciù. Grazie. E te la faccio anch'io. Porco fu tutto. Così impari. Così un porco fu tutto. Non ti faccio modulare stasera. Così impari. Tanto ho scritto segnalemi. Come ti sento, sei morto. Robe tecniche di sovrammodulazione. Robe tecniche di sovrammodulazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma l'accumulo. Ancora non l'ho pestato, no! Pestata, peraltro! No, che lo proprio, guarda! Non c'è nessuno! Ah, mamma mia, che pestato, capito! C'è gente, è pieno qua! C'erano 5-6 poco fa! Quindi figurati, guarda che quello dell'altra volta, che se mi sono ricordato, si chiama Roberto Quadrato, quindi... è il figlio del tuo principale. Ehi, quando senti Roberto Quadrato, chiedi la vera, se si ricorda di te. Inventi sentato lui, e lo sai che L'infermiera non entra mai, quasi mai. Perlomeno, ma quando entra glielo chiedi, così mi scappa la risa. Dici, guarda che io ho messo fuoco io all'officina di tuo padre. Ciao, ho detto il canna, è l'aria, ma piano, è il carbone. Appunto per quello, e dici, vabbè, io sono quello che ha fatto saltare in aria l'officina di lì. No, non è saltata, per un pelo. Ma te lo sto dicendo, mi sono ricordato mio mulattino, la verità, di questa storia qua, perché non mi ricordavo il nome, e poi mi è venuto in mente, ho detto Roberto Quadrato, quindi Roberto è il figlio di quello che, non so, il figlio di nipote o di quello che è. Ecco, quando tu senti Roberto Quadrato, intanto lui entra di sotto la domenica, dici, guarda che io sono quello che ha fatto saltare in aria l'officina, digli. Così ti faccio un paio di risate. Oh, prima gli chiedo se il figlio di Sio Giovannino, vedo la mia, se sei che sia il figlio del fratello, o dell'altro fratello, ora non me la metto a fare il figlio, e il tuo e quelli che sono, vabbè, tu chiedi, fregatene, se quello lì che tu hai fatto saltare in mezzo, che hai fatto quella storia lì, sta tranquillo che si mette a ridere, dice no, eri tu, quello maniaco. Gli carotta che era il piromane che quasi per un pelo ti fa saltare l'officina del tuo babbo, del tuo figlio. Ero io, caro Puffo. Appunto, è quello che ti sto dicendo. Se si impara a prima più carbuglio, metti il carbuglio dentro, anche, va bene. Senti, si può guidare più bene. Appunto per quello che sto dicendo. Sì, cioè, hai ragione tu. Meglio che lo dici direttamente tu, appena entra la baracchina. Di solito lui già lo sa che entra il sabato o domenica sera. Di solito, non è tutti i giorni, tutti i mesi, ma comunque a volte entra. Ma meglio che lo racconti, almeno si rende conto che gli ha messo un fuoco alla fabbrica. Non fuoco, che è messo quello che ha posto bruciare l'aria. Appunto, Allora sei tu quel maniaco e dico, chiedi a tuo padre, a tuo zio, dirici il figlio di Armandino. appunto per quello. A chi la buona anima di papà si chiamava Armando, Ferdinando, Edro chiamava Armandino, a chi la marcia papà, da canta in mezza, però era magro. Ehi, ma... ah, ce la fai. Una cosa è già ragazzi. Hai anche fulo sei euro al mese, ma stai scherzando, al mese ti avevo messo in galera a quest'ora. Ah, segui che mi la via papia dentro, però non mi doveva dare niente, il papà l'aveva detto, fino a pure a Luca, le portate che imparavo un mese, l'aveva detto, e chi già allora mi la via a pranzo. E pubblicati il giornale di Battisti si mastrati, dici di dai a Babuzzoni. Quando che arrivi da casa la luce l'ha già visto, e dici quando vedi mi dico, cavavo il mio da tu, cosa mi ha dato? E me ne li semi li avrà, mi ha messo come se può essere avanti, e le cose sono similari, tutto lui. E se dalle sette manzane apprendi i fenni che avevano della mondezza, ci sapete che non arriviamo in operare. Appunto per quello. Già me lo immagino. Cazzo, lui negro lui. Da me con un carnice, tutta via Carlo Felice, specialmente a via Napoli. Da me è nata con un carnice pieno di coppoli, sportelli, parabrezzi. Allora noi la ne aumentavamo, erano i 20-10 gli sportelli dei coppoli, che erano i 20 grossi e pisavano. Una canna in questa strada, la canna mi la faccio un bel voce, parava papà, fino a ieri, uccidi, no? E mi dà una mano e finisce un carrozzo in un pezzo di lassata, profili prima di girà. Nel punto più alto dove ci sono tutte le scalinate, mi dà la figa. Io già ho capito già, per carità, già non immagino. Sì, sono confuggito subito. Ma poi madame, ma stai offesa che sono risetti, manco dici. Risetti, manco. Sono negrino, vai e tira più giù un carrozzo. E cosa fai? Non ti interessa, gli hanno detto un altro travaglio. Infatti dopo una settimana sono entrato a lavorare al distributore. A chi ero parato, domandene, ma dici se vuoi venire a travagliare noi? E non mi farò giù vivo. Hai fatto bene, grazie a Dio. Cazzo, rimattessi di nami la via, lo stipendio assicurato. Oh, ferie, malattia, tutto va via. E mi sono rimasto 5 anni, solo che poi me ne sono andato in marina. Se no oggi che oggi sarebbe stato il mio quel distributore, perché mi aveva detto se rimani te lo lascio in gestione. E invece me ne sono andato ma qui. Grazie, ma mi senti a me? Sono col portabile. A voi lo sento bene io, Natalino, ci mancherebbe, lo sento forte anche. Ma anche io a Graziano lo sento bene, è lui che è disagiato. Prova Natalia, perché ti sento così. E guarda, io ti sento sempre bene. Ecco, con la radio coricata sul tavolo, girata. Sul frigorifero ti sento bene. La Tusa sempre così, così mi senti bene, che mi fai caro caro. Ehi, abbacciucci, così ti sento bene bene, l'ho coricato sul tavolo e girato, perché ho visto che ho un pezzo verso lì ci va bene. Sì, vabbè, là, riprendete che vi ascolto, che sto mettendo a posto le sedie, anche senza sedie oggi ero, perché me le ha date due adesso, perché le ho portate al tappezziere, a quello che c'è in quella piazzetta, mi Antonio. Già ho capito, notario, non c'è problema per quello. Allora sai dove ho mangiato? Seduto sopra il cassone del computer, e mia moglie sopra la stufa. Figurati, comunque già vive, non ti preoccupare, meglio la 27. Sono contento. Sei contento? Sì, sono contentissimo che vi sentite. Anch'io, guarda, caro. Stamattina ti ho chiamato, ma non mi hai risposto. No, c'ero, non ci sono mai la mattina io. Sono impegnato. Ciao a tutti, divertitevi, ciao. Ciao Claudio, ben sentito. Anche tu arrivi benissimo qua. Sono vicino a te, per forza mi senti bene. Meglio così. A Natalino lo sento con la radio coricata, se no non lo sento. E a me non c'è bisogno di coricare la radio, già te la corico io. Ehi, vedi, Antonello, a te fuori. Ehi. Cosa hai detto, Natalino? Gli ho detto a Graziano di sdraiarla sempre la radio, così mi sente bene. E infatti, no, già arrivi anche qua. Riprendi Antonè, ciao a tutti, divertitevela. Ciao Cla, altrettanto. Ciao Cla, alle prossime. Beh Antonè, e cosa stai facendo? Niente, sto aspettando che arrivi mio cognato da programmarmi ordinato 5 PMR da vendere e sono a posto. Ma quello è un Q5. Veglia. Ah, come quello che c'è qui, quello nero, col pomino. Ah, io mi raggio qui. Ui, cosa me l'hai fatto? Ma non c'è alcuno in buco. Lo so, lo so. E già te li prendi. Metti su internet. Commerciante stai facendo? No, quelli che ho io sono già venduti. Di cacciatori, non per altro, non per me, e ci mancherebbe, invece io ne ho qua, 5 ne ho, compreso il Polmar digitale, quindi. Quindi stai facendo il commerciante? Eia. Sono contento. Te la puoi giocare, tu sì che mi camminevi. Come sto a fare il cambio in uccelli? Claudio, non mi raccontano, Antonello. Ah, non lo sapevi che cambia uccelli lui? Se vengono qua sotto casa con il PMR, qua nelle campagne vicino a me, li disintegreggio tutti. Lo do io PMR. Oh, ce li non ne ho io mi. Ave la voto, eh? Io non sono mica cacciatore. Ci mancherebbe. Ha detto Graziano che tu gli hai dato il PMR, loro ti danno gli uccelli. Ah, stavo passando male che... No, no. Vabbè, sto zitto, non dico niente. Lei non dire niente. Vai Claudio, il tasso gli abbiamo trovato. Ecco, a 5 a 5 da bui. Le danno 5 uccelli, capito? 1 a 1. Deve fare. Che cazzo 5 uccelli? Ma ce la fai? 5 altre cose, ma non 5 uccelli. 5 cinghiali ti danno. No, no, quelli si lanciano, non me ne frega niente a me. A fare io lo so. Ma chi li hai dati a Mario? Per Mario so. No, no, tranquillo, non so per Mario. Ah, un'altra compagnia. E vabbè, se servono per sentirsi uno con l'altro quando vanno a caccia, già va bene. Importante che lo usino come cristiani. Appunto per quello. Mario, come già lo sai, è chiuso. Quindi, gli ho regalato il balacchino e l'alimentatore, cosa leggere? E poi pretende anche due portate. No, non esiste. Chiuso ha con me. A parte che sono fuggiti tutti da lì. Vengo tutti qui la mattina. Tu alle una passi di qui. Tutti quelli che vanno da Mario sono tutti quanti qua. Peggio per lui che fa scappare le persone, ma da quando gli è morto il figlio non è servito più. Boh. Va bene, dai, sto facendo cosa. Riprendi tra Natalino, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Sono in ascolto, dai, devo far cosa. Ok. Ok, ok, va bene. Simone l'ha fatto male, peggio per te che non gli hai pensato i vizi, Antone. Ehi, vizi, gli hai dato un balacchino, l'antenna. Gli hai dato un coso, un 120 canali, l'antenna B27L. E poi Gia voleva anche due portate di seconda testa sua, no? Per andare a caccia. Ma ve la vai, IPMR, e ora sono scemo tutto cosa. Ehi, glieli la figuridina a Sergio, se no se li comprava. No, no, lui voleva, a gratis li voleva, il discorso è questo. Io mi sono rifiutato, non sono scemo, prima di tutto, quindi, se vuole, gli apparecchi se li prende, lui l'amico suo. A me non me ne sbatto proprio niente. Cazzo, chi ha venuto subito? Non ha più compreso. Già gli ha regalato l'antenna e il barattino della 27. Roba massima. Cazzo, via. E tu ci rimanevi se gli intendi. Gli ho prestato due PMR, la volta due, quelli che avevo io. E tu guarda, se lo uso io, userei tu. Un giorno mi richiama e cioè vado io di là, la verità, e gli ho detto guarda che mi servono per fare l'impianto d'antenna TV. Sì, sì, sì, va bene, ma dopo il mio marito mi chiama e dice ma le cose non stavano così. A un certo punto mi ha detto, dice, quelli erano i miei, i tuoi. Che cazzo tu hai detto? Tu l'hai pagato i giraggi, gli ho detto. No, gli ho detto. Mi dispiace, ho detto, te ne vai a fanculo, ho detto. Fatta amico, ho detto, I clippati io non sono quelli, ma è tutto. Gli apparecchi li ho pagati io, i due PMR, se permetti. E quindi se mi dai solo io te li prendi, se no te la prendo in culo, io ho detto, a fare cinghiale. E cazzo me la frega a me a fare cinghiale. A fare le trasbordi, no, a fare cinghiale, ho detto. E poi che poi oggi il cinghiale col fatto della peste suina è pure pericoloso, perché mica sono controllati. Vai, non i biglietti manco, vai. Se vuoi il bocchetto di macelleria ce lo prendi che è controllato. Oggi non conviene neanche a prenderne dal pastore, perché non sai, non sei sicuro neanche che siano controllate dal veterinario. Ma non è giocato un animuscolo, altro non mi ricordo in che paese era, tutti malati. Io già lo so anch'io quello, non è quello il problema. Il problema è che in pratica lui voleva che io lascia voi. Li portate per andare a caccia, lui è l'amico suo, capito? Per fare cinghiali lì a Osilo oppure a coso. E se permette me lo ritirate, perché mi servono a me per fare i piatti di antenna, non ha giù compreso, li ho pagati io e già ce lo aveva gratis. Te vai a casino a un certo punto, scusa. O te li compri, o sono te arrangi. Tutto lì, questo se è quello. Non è che gli ho fatto niente di strano, anzi, devo ringraziare che gli ho regalato l'antenna, la BA27L, il multimo dei due, che gli ho passato io. E quindi, a un certo punto, devo dargli anche il culo, compreso anche la parabola, che gli avevo sistemato la parabola, e l'antenna TV, no? Basta adesso, a un certo punto, i tempi sono cambiati, no? Scusa, Vai, non gli va, grazie, si di cosa? E la garibigì, tanto vedi, le hai dato un dito e se ne era bello un braccio, per carità. Ma non respare, quando te lo chiedono che gente così dici, non c'ho tempo, sono impegnata, ti ricarica Gesù, cercatene un altro. E infatti ho fatto così, tutto Dio ho fatto, solo quello. Ho dato tutto, e vai avanti a te, gli ho detto, a un certo punto, a lui e la moglie, tutto lì. Mi da poco niente, tramma, già, per carità. E te li ha tornati però, il PMR. No, l'ho preso io. Cazzo il PMR, non è che me l'ho preso io, il discorso è quello. Comunque sia, si arrangia, non mi interessa nulla a me. Tu hai cambiato da quando è morto il figlio, il discorso è quello. Da quando è morto il figlio lui è cambiato, è diventato tutto per gli affari suoi, non ragiona più e quindi... cazzo mica la malattia a morire cazzo la notte a mezzanotte scusa ma stavo nella macchina e lui si era piglia con gli altri a un certo punto poi c'è quello che gli ha dato la macchina la Panda passando non era la Panda non c'aveva manco patente addirittura quindi a un certo punto cazzo si era piglia con gli altri no non esiste quello. E poi vai a cercare, cazzo, soldi, non basta quello che si è ritirato, cazzo, 120.000 euro, cazzo. Certo, e allora le denari l'hanno dato a capo, la roba è, va la grabbigista, niente, uccidi, che si scroccano i buchi. E infatti così, ma è vero, non è balla, no, è vero. È vero, purtroppo è così, è vero, non è che sia balla. Ti giuro, guarda, che la verità, no. Io ci sono rimasto ben male, non conoscevo così la verità. Di solito conoscevo la moglie, che era quella che era, con salivi su, che aveva il carattere che non si poteva sopportare, ma lui è diventato peggio adesso, lui peggio di... No, a un certo punto sta pensando del suo. Ormai lui è arrivato al limite e basta, tutto lì. Basta lasciarlo perdere a non andarci, non rigiarti, se ti caga non riposi, fai vita in una mente giunta e ti ridrizzo, assaggi, giù da come te l'hai. No, no, la verità non mi ha più chiamato, la verità, comunque sia. Ma nel caso mi chiami, neanche rispondo più. Perché ho fatto che è troppo, gli ho dato il cavo, gli ho dato l'antenna, gli ho dato il baracchino, a un certo punto a gratis, gli ho sistemato anche l'antenna e non ho avuto manco una lira. Quindi basta. Cosa vuol dire? Anche il caso per due coglioni, il caso lui, l'amico suo, il caso che vanno a caccia, devo dargli anche il PMR, no? Vai e te li compri, vai, e te li prendi. Quindi c'è lui, te li onde e te lanci. Che se ne frega? A un certo punto. A me non me la fotti nulla. S'avvangia. Lasciala perdere certa gente, tutti i giri, vedere se è liberata, se si secca, non lo curato, non lo rispondere neanche, come che non esista, lascialo come gli altri, per dargli, quello è andare a fare i piacini miei, e regali per entrare in frequenza e tutto, e poi si comportano da strutte, stavano pigliando il mammacco, chissà cosa ha pensato di... E così impari. L'R, stati gli ammiratori, hai compreso? Sì, già lo so, già hai capito, già ho capito, per quello, non ti preoccupare, già non ho più calcolato. Ciao Marco, buonasera, imbarrato. Marco, quel cane morto su bambino e poi non risponde, c'è un crepo. Non l'ho sentito io. Ho sentito io però. Ehi, sei andato a parato, sempre lavorando qua. Di che anna? Ehi, in casa non stava facendo la buca. Ah, quello sì. Sarà tutto concentrato, ascoltando. Tutto incentrato sarà. Adesso che ha baciato la temperatura, pochino si sente freschetto, Ehi, piano piano, non ti preoccupare, già abbassa. Eia, eia, oggi ho mangiato di buono, minestra con la ricotta fresca, poi spigole e polpette con la salsa, e le favette in verde. Beato te. Pani non ha giù mangiato, Barò, senza pane. Mi ho mangiato mezzo pacchetto di crecche e bu. Hai fatto bene, era ora. Due mandarini, no, clementine, buoni, freschi, freschi, metti gazzucci. Meglio così, era ora. Eia, e poco fa mi ho preso un bel caffè con una bella brioche, con la crema. E così ti scende la canna. Io quasi mi ha sbagliato, sono combattuto in bagno, che non posso mangiare la crema io. Puzzino, se ti bella fammi la mangio, ma tu farà da sera. E se ti in bagno a fare la cacca? Ehi, non le posso mangiare io di quelle pasta con la crema madre. Mi vado così. Io meno male sì, ma non tutte, la verità si dica. Anche io qua, però quelle con quella crema che c'è dentro, un po' che buona. Improvvisa non le posso mangiare. Una volta ogni tanto già me la mangio. Meglio così, e da ora. Avanti ci vuole entrare, barrato. Chi è? Chi è? Io sento quei blondi. Blondi che parla. Chi è che vuole parlare con blondi? Avanti. Non avere paura, parla pure. Sei maschio o sei femmina? Non risponde, c'ha paura. Però è blondi che parla. Magari, un pizzi. Ehi, quei portati dei bambini, lo sai. Li danno i bambini. Bambini, vabbè. Sanno 14-12 anni, quelli che sono. C'hanno paura adesso, magari. C'è questi che sono. Hai capito? Aspetta, vado a aprire che hanno suonato. D'accordo. Antone, guarda se mi ascolti più forte adesso. Segnale 2, basso, sì, Natali. Sempre così? No, perché ho cambiato la batteria che è la mezzo scarica a quell'altra. Sei basso, Natali, comunque sì. 1, 2, non di più. 1, 2, non di più, boh, mi pare strano. Prima ero con la batteria più piccola. E te lo sto dicendo. Aspetta, eppure, boh, è strano. E magari fuori dalla finestra, cosa ne so io? Prima quando ti arrivavo. Prova. 1, 2, 3. Adesso si segnala 2. E prima quando ti arrivavo più forte? Adesso sei 4, preoccupai 1. No, non ho capito bene. Adesso sei segnale 4, poco fa è segnale 1, ho detto, dipende da come ti muovi, capito? E adesso? Prova. 1, 2, 3. 2. Quanto? 2. Vuol dire andare così, dai, aspetta un attimo. Beh, Antonio, oh pugno. E avanti, ciucucciù. E beh, Antone, com'è la situazione? Guarda, se è aumentato qualcosa. Segnale 2, a posto. A posto, Segnale 2, sì. Chiara la radio, 4 e mezzo. Ehi, vabbè, quello è perché ce l'avevo lontano, mi guarda, adesso è più forte, così è. Esatto, sì. Ehi, vabbè, a me mi interessava se aveva calato il segnale, perché gli ho messo la batteria, quella, l'altra, mi. Siccome ne ho 2 per questo qua di batterie, e l'altra sta caricando. Va bene, comunque, sei a posto. Cara. Tutto a posto, non ti preoccupare. Va bene, esce bene. Io te l'appoggio. Ehi, Gian Maria, non si è sentito, no? No, ancora no. Sai sarà girata l'altro bianco. Ah, boh. Se non è che c'è la 27 accesa, tu accesa ce l'ha. No, è spenta, la 27. Nella mia occhio. Beh, raccontami qualcosa io, Antone. Cos'è fatto di bello? Sì, mi sono trovato male più che altro. Quindi, figurati tu. No, io ti piaci chiamare, ma non ci sono uscito. Vabbè, mal di pancia. Cuglioia. E poi, guarda, razza d'aria, se piazzenti. Dai, il suo contrapposto. Visto, tra poco piove, speriamo di no, comunque sia. No, che se piove ce ne vuole acqua, non ha fatto un danno. E poi c'è febbraio e marzo, da qui leva, ti rasogni, e i bacini noi che siano i piedi. Tranquillo, già piove anche a marzo, non ti preoccupare, anche a aprile, te lo dico io. Ma, boh. E se no il cicchio rimaniamo senza Eva. E vabbè, andiamo a dare il QSO, diceva quello. E io mi compro un depuratore e mi la piglio da brata nuova, Eva. Me la depuro. Fai bene, hai visto? Ti faccio una linea privata a conto mio fino a casa, penso che andate. A conto di casa muto vai. Passi l'aria. E andiamo bene, visto vai. Se no mando un drone, mi piglio un drone grande, col serbatoio. Drone e paragone, diceva quello. E allora? Ma di fuori di oggi lo coso, quello mezzo posto male, non si è più sentito. L'ho visto infatti, neanche l'ho più sentito. Dici Maria, tieni, me lo vedi, non lo darà nessuno il baracchino, roba dei molti mi l'ha detto, non si è mai visto. Ma quello è suonato, già lo sai. Già lo so, metteva a fuoco le campagne qui. Si metteva anche duro per quello, cazzo lo fuoco alle campagne. A te lo compri il baracchino mio? Grazie. Però poi ne sto vendendo io, se ti interessano. C'ho anche un presidente gesso. No, ma io ti volevo dare un altro baracchino che c'ha 50 watt d'uscita. Capito? Ed è pauroso, quello che usavo io, mi. Non lo sto usando perché qua, cazzo, mi ammazzano se no. Sto usando l'omologato. Io sto, mi devo comprare un omologato nuovo perché questo riceve male, è un casotto. E me lo voglio vendere, ne ho due di quelli lì. Poi c'ho il President Lincoln e poi c'ho un 120 canali vecchio, cazzo, di quelli della guerra del 15-18. Ma chi c'è presunto? Io c'ho l'Intec, se vai Antonio che è vecchio, è lo Zodiac, è il Washington, c'ho anche il Washington da base, che è AM, USB, LSB. E chi c'è preistorico? Vai Antonio. Io già lo so quello, non ti preoccupare, già lo so. Ehi, ma digli su Miu cosa può fare quel 45 cavalli. Cazzo, quanto è 5 cavalli? Mica fa 50 watt quelle, boh, quell'apparatoia, lo sai, l'ho avuto anch'io. Ma non è 50 watt, no, ma stai scherzato? Quello sì, misurati al wattmetro, cazzo. Se sto potendo si ruba una manetta, c'ha il doppio modulatore, gli hanno poco di roba. Quando tu fai vedi si tratta nei ribicchiari in picco. Sì, domani. L'ho avuto io 1009, l'originale, ma sta scherzando. Il mio non è S9, 45 HP, è diverso. Ce n'è uno che ha addirittura 80 watt, se lo vuoi sapere, vira un amico mio. E poi ne ho un altro, ne ho due di quelli. Non è S9, no, quello che ho io è diverso. Infatti mi rubo gli a chi no che non rubo da giù, mai tratta. Se non metto l'antenna più in alto non lo potrò mai usare perché disturbo che cosa male, no? Già ho scoperto perché disturbo, perché hanno messo altre antenne, hanno aggiunto a quelle due che c'erano e sono tutte una vicina all'altra. Chissà tutto il casino hanno combinato. Cosa vuoi dire, Caio? Non lo so. Io ho 5 watt, lo sai, nel codex 4000, quindi io ho il codex 4000, già l'hai visto come esce, 5 watt uscita e va benissimo. E quanto lo stai vendendo? 50 euro. E vai, si rubedi, tassucci, a 50 euro, ma lo sai quanto costa un apparecchio del genere? Ma è antico, oramai è passato di moda, vero Antone? Ma cosa antico? Sei nuovo? Ne ho due antichi, anzi tre, no, due, e due nuovi. Questo 45 HP è così dalla fabbrica, mi. No, non lo conosco io come Antone, visto l'ho io. Gli altri l'ho visto, avete gli alati, Marco gli alati, se non mi ricordo male, poi non lo so. Ehi, a Marco me li ha dati. Mi dilla a Marco Condor, rapide come ti dici. No, vai che cazzo, si tratti chi su cazzo i fasci tutti in chivi. Ragazzi, no, io qua sono libero, non disturba nessuno. Ehi, ma sto dicendo, nel quartiere lì sfasci tutto, perché ti sentono in tutti i canali, minimo, con tutti quelli vicini che hai tu, e tu non senti a nessuno. Se non sono in un canale tu, io non intendo a nessuno, io no, che cazzo, un chizzo omologato, sono competente quelli da voi, se ti vedi. Infatti me ne voglio comprare uno, mi vendo un paio di apparecchi e me ne compro un omologato, perché io voglio l'omologato. Questo riceve e trasmette male, questo che ho io. Omologato. AMFM, io vi sia anche io, ce ne sono anche a 40 euro. Tanto non li vai, di tutti i lati canali. AMFM, 40 euro l'ho visto, nuovo da negozio, di quelli moderni. No, oh, io lo voglio con le bande laterali pure, 40 canali, omologate le bande laterali pure. A costo di pagarli 200 euro non me ne affutti nuda, però voglio un apparecchio serio, chi non piglia colpi. Se mi rubi l'uomo. Capite, io con quel magnum lì che ho io, col 45, non senta nessuno, mi se non sei nel canale. Io con il mio non sento a nessuno, nulla di nulla, cosa vuol dire nessuno nessuno? E poi esce fortissimo, puoi regolare la velocità, la come si chiama, la potenza, no? Anche con 2 watt puoi uscire, io lo stavo usando con 2 watt, me. Non lo potevo salire di più, perché sennò guai. Poi Antonello già lo so come funziona, ma quegli apparecchi. Ne ho tolto, come si chiama, il doppio modulatore, ma chi viene ce l'avevo al minimo. Non lo vedi che si alzi poco poco guai con quell'apparecchio? Guarda, il mio è proprio a zero e va benissimo. Non gliene ho dato, ho fatto solo una prova, la potenza e blu. E l'ho messo e chiuso. E funziona benissimo anche con la potenza chiusa, è bene pure. Infatti, chi ci va? Le puoi regolare da rimanopoli, il tuo canto, le puoi cavare il doppio modulatore. Quando metti il doppio modulatore è una belva quello, cazzo! Le buone tutti i volte il doppio modulatore ti dà una voce paurosa. Che io te l'appoggio. E io te la spingo, parola di gringo. Oh, yeah. Ma non ti serve che un apparecchio 50 ti serve, ma dimmi, vuoi un apparecchio 50 con 200 canali, così ti serve, ma non ti serve altro. Lascia per adesso il coso, tutto quello che c'ha, l'eco, eccetera, eccetera. Di quello non c'entra niente. Ti serve un apparecchio che sia 200 canali e 5 watt, giusto? E che sia omologato però. Ah, ecco, ecco, ecco ti serve a te, che sia omologato, Andare, quello che non ci sono problemi, se vive. Però per me vedere l'apparecchio come si deve, mi. Se vuoi l'apparecchio omologato 5, come dici tu, 5 watt, anzi 15, 5, che poi lo posso scendere anche a 5. Perché il mio omologato, il discorso è questo, tu ne hai due di quegli apparecchi, devi darmi quello originale. Ne ho due di quegli apparecchi, l'altro addirittura non lo so quanto esce di watt, bisognerebbe che lo controlliamo, magari riusciamo a chiuderlo, però non so omologati, dicimi. Ah, ma non me ne frega niente la questione dell'omologazione, perché io ho la mascherina del 2009, non faccio altro che metterci il marchio c'è dietro e sono a posto. Se tu vuoi l'apparecchio omologato con la scritta omologato, ti do quello che sto usando io. Il 27 già lo sai. Il mio 3009 è che c'è scritto 4005 in pratica. Anzi no, 4005 un corno. 34S per esattezza. E c'è l'omologazione. Però tu ne hai due, già lo sai anche tu. Quindi voglio provare tutti e due. Io non voglio pigliare un apparecchio che è difettoso, capito? Se no ce l'ho in culo. Quindi li prendiamo tutti e due. Quello migliore li prendo a un certo punto. Ti ho detto che non ne hanno difetti, li ho provati io qua. E sono delle bombe. E poi mi lo provi. Cazzo. Da chiuderlo. Che poi non mi conviene, cazzo. Perché già lo sai chi deve venire qua a controllare. No, vedi che mi hanno chiamato... Aspetta. Vabbè, Natali, passa a casa e te lo prendi adesso se lo vuoi. Provalo, quello che ho io. Vedi tu, cosa vuoi ti dica io? Vabbè, già ci mettiamo d'accordo, dai, no, per problema. cosa ti volevo dire. Vabbè dai, rimango in ascolto, io già vi ascolto. Comunque sappi, grazie a se lo vuoi, 150 euro quello là, meno non lo do. Ma poi non lo so. Un cassetto di su. Ehi, altro 150 euro che ne volevi, di quell'apparecchio lì che c'ha lui. Vai, a me non mi serve, ce l'ho nuovo, cosa mi ne vuoi? Ma me lo sto vendendo io se riesco a venderlo. Au, non mi interessa, ce l'ho nuovo, ville pari buchi, già te lo vedo, cos'è il 7009 quello vecchio? È digitale, tutto quanto, non gli manca niente. È bello che c'ho io, quello che c'ho io è un... il 2009 con la mascherina del Tornado 34S, è addirittura omologato, quindi è a posto a un certo punto, tutto lì funziona bene, dai, che funziona bene, figurati tu. Poi non lo so. Il mio è nuovo, cosa vi dato? Un paio di mesi vi dato. Ma cosa me ne faccio? Mi sono stufato e me l'ho comprato nuovo. Con mi dirigendo cura di campo sempre, una di mare, una di largo mare, ma... Ui! È guffo. Avvate, avvate, chi vuole il guffo? Chi è che lo vuole? Avvate, chi vuole entrare? È guffo. Ah, Luca, Montanaro, dormito sì. Dormito sì, tu. Dì la verità che ti stai svegliando adesso, ti sei girato a un fianco, eh? E io? Sentito vai, Antoni. Sentito, avete una pernacchia, ma non è roba sua. Avanti, avanti, che? Sei basso, non ti sento più. Non ti ascolto, no? Sembra basso, non ho capito chi sei. Giuseppe sei, ciao Giuseppe, ma dove sei? Alghero, non ho capito chi? Non ho capito nulla. Ho capito sei Alghero, ma non ho capito chi cavolo sei. Non ho capito sei Alghero, ma... Non lo so, lo ascoltate gli altri, sì o no? Ti ascolto, solo io ti ascolto, Alghero. Bubu, ho capito, guarda, non ce la fai arrivare a Sassari. Ti sento tutto mezzo bu. Guarda, cerca un punto che sei alto, cioè d'Alghero, in modo che io ti ascolti bene, perché se no è impossibile, cioè, ascoltare. Ho capito che sei di Alghero, non ho capito chi sei, però... non so cosa dirti. Avanti, c'è rimasto qui in questa frequenza. Che Antone, io non lo sentivo a nessuno. Neanche io, guarda, la verità lo sentivo talmente basso che non riuscivo neanche a capire chi cavolo è. Quindi non so cosa dire, la verità. C'è, Natalino arriva bene, ma questo è proprio in mezzo al fruscio arriva, non so chi cavolo sia. Grazie. Ehi, passa dai quel conto là, quel conto là, cancello, del cazzo, no, lo devo fare, devo guardare, che ando rubà, l'annuncio, e più tardi lo guardo, che l'ho acceso adesso il computer, fammelo sapere, che domani, è bello fare alla posta. Ehi, va bene, ok, a domani. Ciao, ciao. Ciao, Tore. Ciao, chi è? Chi sei? Dimmi, che non ho capito un tubo. Chiedo, il fratello di Graziano. Ah? Il fratello di Graziano. Ah, ciao. Dalla voce siete quasi uguali, la verità, ma hai capito, sono rimasto così spaesato adesso. Molte volte si cambiano al graziato, diciamo. E non ti preoccupare per quello, fregatene, non succede niente, ci mancherebbe. Ok, ciao Antone. mi è entrato l'altro, perché piglia la parecchina. Ebbe Mario, il barrato. Attore! Vai bene, via tempio, vai, il barrato. Dimmi, va a far cuffia, adesso ti sto toccato i cosi. Chi è Antone? Mario. Stanno dice, l'amico suo è stato a casa sua, a pigliarsi il vino. Hai capito? Ehi, non lo sento io però, se non si piazza l'antenna come ti dicevi, nada di nada. Io ho detto anch'io parecchie volte, mettiti l'antenna a casa, c'è le antenne, il laboratorio, manco una le piazza. Veramente esaurito, boh. Te lo ricordi Matra, tantissimi anni fa? Uia. Ah, Tony. Dimmi. Il nominativo Matra, te lo ricordi? Matra? Matra, 40 anni fa, da. Sì, me lo ricordo Matra, sì. Ehi, Piero, mio fratello, quello di poco qua. È Matra, Ah, ho capito. Ma sai che lo stavi parlando l'altra volta, che tu stavi lavorando, te lo ricordi? In quell'officina? Ah, non ho lavorato, anche lui ha lavorato lì vicino, nell'officina, però in un'altra officina, mi sembra, si chiamava quella, l'officina di Paolo Farri. No, io sto parlando di quella di Farina che stai parlando tu. Quello si chiama Roberto Quadrato, te lo ricordi Roberto Quadrato, il figlio? Sì, già me lo ricordo Roberto Quadrato. Quello è il figlio del principale tuo. Già me l'hai detto. Appunto, me sono ricordato l'altro giorno, la verità. Poi mi è venuto in mente, io ho detto cazzo. Era sempre nella lingua, dopodiché mi è venuto in mente. Ogni tanto già lo sento a Roberto, però il periodo estivo lo sentivo di più, Beh, logico, adesso magari non gli frega niente del PMR, quindi. No, nella 27 lo sentivo prima. Appunto per quello, grazie. Uffo! Luca, entra, innestate, entra! Luca, cosa sei dormito? No, sono ubriaco. Bravo sei, cosa hai bevuto? Vino spumante. Limonata d'arancio. Sicuro. E vi credo. Ah beh, mi sono riposato stasera, no? Mi sono svegliato, no, alle 5:20, cioè un quarto. Luca Guffo che fine ha fatto? Luca Guffo sta guffando. Sempre guffando sta. Eia. E chi è avanti? Ma aspetta un secondo, chi sei, l'amico? Vabbè, il segnale non è che sia quello che sia il segnale. Sei segnale 0, radio quasi 1, non ho capito che sei, Don Bairo, non ho capito niente. Ciao Don Bairo, saluto il dialoghero, ben ascoltato, vabbè ti ascolto, segnale quasi 1, la verità, la radio è quasi 1, ti ascolto in mezzo al casino, comunque ti sono riuscito a capirti. Salutoni, ben ascoltato anche a te. Avanti, riprenditela. Che c'è rimasto, avanti. Chi è Antone? Lo ascolti? No, non lo sento, dov'è? È Don Mario Alghero che sta chiamando, in pratica, hai capito? Quindi ascolti in pratica solamente tu, e forse io e qualcun altro, ma poca roba. Ah, mi sente lui perché? Ah, io non lo sento, non arrivo. Aspetta Luca un secondo. Don Bairo, ascolta, dove sei, Alghero proprio oppure col gommino o sei in stazione fissa? Ma sei basso comunque in stazione fissa, la verità, non so cosa dirti. Ti ascolto, scusami io perché sono in direttiva più che altro. gli altri non ti ascoltano per niente, né uno, cioè di quelli che ci sono qua in ruota c'è nessuno che ti ascolta, si ascolta solamente io di culo. Che cazzo devo di più? Se sei con quello di Blondi, ringrazio che stai arrivando a Sassari. A un certo punto, anche quello della Blondi sta usando gli apparecchi. Hai capito? Bubu. E noi siamo con i Baofeng, e questi sono con la Blondi. E escono gira, meglio dei nostri. Bubu. Era vero me, una cosa strana, Mario. Cazzo, quelli della Blondi gira arrivano meglio di Baofeng a un certo punto. Buh. E sono Blondi. Io già sono meglio i Blondi che i Baofeng. Che c'entra i Blondi sono fatti in Cina? Non c'entra niente, la verità. La questione è questione di vatte più che altro. Eh sì, scusami, da Alghero a Sassari mi che ce ne vuole mi arrivare, non lo so io. A un certo punto. Sì, con i portati dei Blondi. Vai, ecco, cade vai, Mario. Ah, ecco, cosa ti dicevi, è un discorso diverso. Ma non mi dica i Blondi, perché non è possibile. Non so cosa dirti, non lo dite. Ah, te la bigli in culo, Mario. Cosa vuoi dire che... Sì, fa quello che vuoi. E cerca di pagarla, perché l'ho pagato a te. Quindi adesso tocca a te. Adesso mi piglio il tram e scendo. Quindi ti aspetto giù, mi. Se non lo paghi, ti faccio casino. Piglio e ti spacco la serranda. Almeno che tu vedi la luce, vedi. Ah, è un po' così l'on, fermi. Sì, domani. Adesso prima di tutto scendo giù a sistemarmi le portate. A fare la programmazione, poi si vedrà. Luca, avanti, ripetetela. Arrivo subito. Avanti. L'altro. Va. Ehi, e chi è con chi state parlando? Con Mario? A bene ti sta pagando. No, è bello che io pagherò bene a lui. Hai capito cos'è il discorso adesso? Siccome sono i soldi io, lo pagherò bene io a lui. Tutti i giorni. E poi scende con una bottiglia d'acqua e gli dici che è più vero. Cazzo, sai che c'è ragione. Adesso dopo glielo faccio. Scendo lì al, come si, in via Tempio, gli imperno una bottiglia d'acqua minerale, sapi, di quella di Rospi, ci metto un appena appena di alcol, di quella 90, che vendono. E gli faccio fare l'acqua Vitek. Entra alle Rospi a fare il nigiri, pigli una pulla d'alcol. E fino a fuori dritto, e poi gli dici, ma ti ho scelto il filo ferro, guarda se ti piace. Così spigli a poco. Adesso faccio quello, ci metto un'idea la verità. Mario, sei d'accordo? Sì. Non mi risponde, no. Intanto non mi ha sentito a me, non mi sente, non mi sente. No, non ti sente a te, no. Sente a me. Oh, è giusta la verità. Prendo l'acqua. E un po' di alcol di quello, a 90 gradi, ce lo metto in mezzo e ho fatto l'acqua a vite. Una volta ho preso una bottiglia, ci ho messo un quarto di benzina e poi ci ho aggiunto l'acqua, l'ho mischiata e l'ha aggiunto, questo è il fuoco di Russia, se vedete a Bettino ti la regalo a un tipo, beh allora se la abita tutta e la benzina, a tu mi sia poco. E poco questo stronzo. Pure abbi, avrò che abbi. Mica forse non ti rubi, mi dico giusto. Prova a bicchierito. Se ti rubi, non mi dai nulla. E ci la pizza, la benzina. E come ho fatto a mettere la benzina? Io stavo in ciglio, io stavo in gioco, pizza, e mi ha detto che era un bel buono, è buona legge, Cosa vedi? Stavo la ciglia tu, i minuti. E poco sei gonfio, sì. Sei proprio abbastanza forte, mi dentro e fuori. Animale cavava! Fumo da puro cavava fumo! Non lo so. Oia. Allora, se ti trovi mi dici, ma non mi paghi mai, Abbi. Fai tu sei così, già ti la regalo una pulla buona per, ma così la vedi, ti canta il posto. Io mi dico pure a te, già ti la regalo, non ti preoccupare. Tanto qui te la già regalo, e ce l'ha visto. Cosa è, dai? Dalla voce non me l'ha più mandata a via. E te lo credo. È passata la gara, bici mio. Non mi ha detto nulla, ma mi è passata la gara. Per forza che è benzina. Scusa, a un certo punto. E meglio non lo sappia che la benzina. Mica lo sappia. E ti metto che era un bel buono, non viene più farò, ma c'è giusto di mettere pure la benzina, con che ci mi costa, che cosa fa? E appunto per quello. Io dico, ma vado, e borrone a 2 miglia. Bubu, che immagini? Ha detto questo si chiama fuoco di Russia, e tu, quando la sai, si ruota che non ti piace, va che io mi vengo pure a te e te, prova. E beh, buono, buono, proprio, come ti voglio, te, te li tirati tra la puta. Bubu. Oh, Giulia, Mario, ci sei, sono andato a piatti il vinello. È andato a piacere il vinello, Mario. Esci, vai. Allo circolo è andato. Ehi, c'è il circolo vicino a casa sua, c'è a 50 metri. Andata via se viene quello lungo. Sì, basta collegare un tubo allora, se questo vicino, così non fate la fatica ad andare a pigliarlo. Collega già un tubo, dallo 21 al vagone di camera da letto, a 31, con il peruletto. Sai come il vino alla Santa Maria della Palma, evidentemente si era già bevuto 5 litri. Sì, non se la bevevo, in una bussata se la bevevo. Senz'altro. Yes, andiamo a io c'ho una colla addirittura di quel vino, sai. Io c'ho quello bianco, lui c'aveva quello rosso. E ce l'ho ancora io quello rosso addirittura. Cioè quello bianco, non quello rosso, perché quello rosso era acido, quello bianco era buono. Ancora non ho consumato. Lava la bella porto di leva. E dove che è riapparso? Beh Mario, era perché sei andato, a pigliarti il vinello da cicco sei andato, bavardo. Hai visto, sei fatto bene a metti un vinello. Avanti. Aspetta Antonello che vado in ufficio. Vai in ufficio, non c'è problema, sono qua, non ti preoccupare. Aspetta Mario che sta arrivando subito. E da tu un attimo in ufficio. Uffo! Ups. Uffo! Chi è? Dormito sì. Sono al computer. Hai capito che è diventato telematico. Matico? E allora? Più matico che tele. Mi sto aggiornando. Bello bene. Bello bene. Ora ti sei aggiornando, ti stai pitti. Ehi, meglio così, grazie a meglio. Aspetta, se non mi passi i cenni, no. Mi riprendi, Luca. Ehi, chi è l'altro? Chi è l'altro? Chi è? Chi è? E dove è Luca? Io sono Luca, io. Luca. Luca, ma sai che conosci Luca? Senti, mio BDP. Chi sei? Cazzo, pure tu, Pina. Dai, malattia a casa, buonasera, esagio di 13 km in cassettina. Buonasera a tutti, benissimo. Ah, sta ancora vivo, sì, mi sono rimosso. No, Luca, già sono ancora vivo. Ho strappato un po' il faccio, penso le malattie. Ah, dove sei? Lì, sempre là, tutti, no? No, no, tutto da un'altra parte, sono tornato da mamma. Ah, ho capito, ora sei zona mia. Io dopo a Santa Venere di Pisa, vicino a Graziano e a tutti gli altri. Pure su Ginocchi, ci abita la mia ragazza qua. Ma qua dove? Dove sei? Che zona sei? Qua, vicino alla piazza, testa del Tore. Ah no, io sono su, vicino ai Nigri. Arrivi benissimo. E dico, ma capo già riconosco, la riconosco, però lì per lì. Dico, vabbè, non sono più sicuro. Già sono io lui. Infatti non ti avevo più sentito manca il baracchino, vabbè. Che io baracchino non lo sto più accendendo, sono sempre qua. Io da mezzogiorno in poi sono qua, e a casa rientro alle 9:30, 10:15. Ah, ho capito. No, io adesso sono qua perché sono malattia, se no sto abitando l'ottava. E c'ho l'antenina interna adesso. Sì, anche io c'ho il gommino. No, arrivi benissimo, no, non c'ho problemi. Vabbè, poi siamo vicini, cosa... Arrivi bene a bomba. Cioè, scrivi al baracchino che ti indico così, beh. Vabbè, lì ti sono tutta un'altra cosa, lo sai. Questi basta uno stacco, non essere fuggito. Quindi anche tu ti sei trasferito da queste parti? No, io sono... Cioè, sono qua alla fine. Sono 2 anni e più che sono qua. Però, vabbè, la notte vado a casa a dormire. Diciamo che sto più qua che là, dai. Ah, perché? Posso ascolti gli altri anche, sì. Alcuni no, mi devo spostare di finestra perché mi dà una parte verso Porto Torres e l'altra a Sassa. Adesso io sono dalla parte di Sassa. Ma sempre là sta lavorando, sì. Vedi lì, sempre là. Saliti il camion più grande, ma sempre là, è meno male. Ah, il camion più grande te l'hanno dato? Sì, non hai visto il mio profilo di tutti che ha fatto le fotografie? No, perché tu non ti ho un account su quello che uso ultimamente, cioè quello che uso sempre, diciamo, tu ti ho un account vecchio. Ah, ho capito. Aspetta, quando l'amicizia, aspetta, venite. Ehi, era, vabbè, io non sto pensando come prima, Dici che volo riacqua? Ah, io ci sono, dai, perché quando... Ecco qua, guarda, lo stiamo andando adesso. Come si dice? Quando devo pubblicare un qualcosa per lavoro, diciamo, qualcosina la sto facendo, dai. No, assai. Ehi, vabbè, lui, meglio quello che niente. Ah, io non lo vedo mezzo, dopo. Io vado un carburatore qua. Carburatore? No, mi sono pittri in verso paese. No. Cagnolino, uccellino e tartarughe, condividete un carburatore. Perché tu vuoi un carburatore, no? No, no. Cosa pensi di Vespa? E il numero è sempre lo stesso? Sì, sempre lo stesso. Già volte, siamo un numero ogni mese. Allora, aspetta che ti cerco su WhatsApp. Grazie. Ehi! Ah, non molli sul computer ti va zimari. No, che mi sto guardando la cosa che mi interessa. Stai giù pagato internet, 68 euro. Ma scrivi di manco un idrato. È che mamma usa il telefono di casa per chiamare i cellulari, se no ne è più staccato. Perché mi sono pesanti ogni due mesi. Se non lavori, sono molto pesanti, 68 euro. Ehi, qualche lavoretto già te lo busti. In un mese non ti busti già per trovare. Io non busti un trovare, dai, niente, c'è fa così, non va di là. Ehi, adesso inizia la primavera, fra poco. Ci ritrovagli a Bianchina, a Puglia, in campagna. Ho capito. Ciao, grazie a Lu, guarda che te l'ho spedito, se ti è rimasto. Ecca, te me ne sono fatture, no? Ah, ho capito. A giocare. e guardi bene l'ultimo che c'è sulla destra. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Non so se tu riesci a leggere. È quello che non hai visto tutto. Che c'è scritto nella mano. Allora, l'ultimo dove c'è, diciamo, quel materiale assintato in chili, quello lì. L'ultimo della fila di destra, non te lo ricordo, vabbè che adesso c'è gli adesivi, ecco. Adesso tu stai guidando questo Iveco. Adesso quello che sto prendendo di più è il Mercedes, quello la cisterna. Ah, ho capito. Perché l'ho fatta io il giorno che siamo andati in fede per Natale Capodanno. Ah, quella roba lì? Sì, mi regge tutti i canti assintati. Quando hanno visto a me che stavo facendo le fotografie, si sono potuto urlare, sì, facciamole. Ma ti hai preso la patente superiore o sempre vale anche quella che hai? Cioè che, quella che avevi prima? Ehi, la C. Prendi filigra, prendi molto. Ah, ho capito. Chi è che vuole entrare avanti? E Barracus non è più usato allora? No, ce l'ho tutti conservati da una parte, a ottava. Ah, ho capito. Aspetta, facendo una chiamata, che domani me ne vado a spararci. A domani anticipazzina. Ciao, te fa acqua, no? Domani. Da farti presto a comprare il sito. E allora, io mi faccio comparare ora rete con lui. Comunque buonasera, hai fatto bene, senza fatica, senza niente, così. Ebbene, se tu non me ne hai portato. Buonasera Giomari. Beh. Ho detto, se tu non me ne hai portato, mica ti ha salutato Antonello, buongiorno. Non li sento, sono un gommino a parte dietro, non li sento. Ho detto buonasera Giomari. Mario, come non c'è? Bevi, non bevi. Grazie. E io sto scendo invece, sto scendo a pigliarmi il coso. Adesso. Poi, se lo vuoi il vino, tu lo bevi bianco, rosso, quello che vuoi. Ehi, dimmi Giomari. Chi c'era? Che Luca? Luca Montanaro c'è, cioè, Luca Buffo no. E non lo sento più. Luca, non ci sei? Non c'è. Si sarà sentato. È sentato, si sarà sentato sì. Ha sentato bene, però, non ho sentito poco. A Cantonello senti? No, non lo sento. A Tonella lo senti tu? Sì che lo sento io. E lui non ti sente perché col gommino dall'altra parte della camera. E me ne sono accorgiato. Ehi, già se ne è accorto Giovanni che non ti sente, cioè lui ti sente, Antonello, tu a lui non lo senti. No, non lo sento, no. Ehi, saluto la parte mia, va. Già ti sente lui, già li sente i saluti, vero Antonello? Ha detto saluti da parte mia, mi ha detto. Ehi, ti ha salutato, non ti sente. Vabbè, dai, continuate, adesso me l'ascolto. Tutto per quello. Va bene. Ci stiamo fra poco, 5 minuti dammi di quell'X che portate da mio cognato, 2 minuti, lo faccio programmare e poi rientro subito. Vai, già acceso, è qua. Ok. D'accordo. Va bene. Va bene, e tutto finisse. Iniziasse. Buffo. Dormita, sì. Arrivando sto. E io, spegnete i baracchini, dai, che non ho la rimodulà. Vai, mangiati un brodino di mamma, vai. Magari. Non me ne invadene. E io quello. Ehi. Già ti vedo il brodino, te li dai di l'annica. Alza la voce che non ti sento, che sei sotto in cantina. Mi senti a me? Ehi, ciao Antonio. Ciao a te. A te la dito mio. Allora, a te la voce non ti sente. Ciao Luca, già mi sente il dritino, non ti preoccupare. Mi ha ascoltato poco fa. No, non sto dicendo a te, sto dicendo a quel tipo all'altro che è entrato dopo. Ah, sei prima di te. Allora, basta la voce. Ho detto che è una riserva, un brodino di altra amica. Sì, piste della vostra, ciao Bini. Ciao Tino, ciao Pompone, ciao Maria, tutti da settore. Oh, beh, Bini, cazzo, sei tanto sì che non mi vedi a me, io ci ho ingrassato un po' a te, sì, quando mi vedevi tu pensavo intorno ai 72, 73, adesso ne hai preso 10, forse anche 15, no, 15 in più no, fai 10 in più, dai. Adesso ne hai preso 90, 95, così intendi. Bene, e beh, come mai? Quelle sono le colorarie sono, che pesano. A San Valentino esce, buh. Ho tirato un muscolo, allora. Ma già riesco a toglierti fuori pian piano, aspetta che ti ascolto con l'altro, prova a parlare. Dalla parte di cucina verso sempre più verso casa tua, dalla parte di cucina non sentite niente. Beh, diciamo che arrivi in Santiago di 2, dai, 2-4, ma già riesco a capirti. Scappa. Vabbè, Antonè, boh, sgridalo tu perché non sembra giusto che entri solo a San Valentino questo qua. Cosa vuoi dire, cazzo, è un anno che non entra. Boh, insomma, addirittura non si fa manco vedere, addirittura, figurati tu. Vedi, entra, fatti sentire, fatti vedere. Ma va bene così. Che entri una volta ogni volta di pappa, non ho capito. C'è altre cose da fare, più urgenti, capito? Adesso che sono libero, non c'ho niente da fare, sto entrando. Aspetta, c'è uno che entra, Mario, c'è Mario che è entrato e mi ha detto, dice, portati la valecchina. Aspetta, e ti ha passato sopra addirittura, con un vate e mezzo. Cosa hai detto, Benì? Ho detto che prima c'era altre cose da fare, adesso sono libero, non c'ho niente da fare. Ah, meno male, però a me, avvicinati al microfono, insomma, che ti intendo, me. Esce più forte Mario con quel portato che avevo dato io che tu, addirittura. Con l'antenino il lui è con l'antenino lo stesso, me, con Baofeng, quello 888, ma esce più forte di te il radio. Ma se non lo sento io, Antonè. Metto che con l'antennino, figurati. Ho detto, l'altro non lo sento, chi è? Ha detto Mario con l'antennino, ma esce più forte di Benito di radio, mi sta usando il Baofeng, quello 888S, che gli ho dato io, mi figurati a usarlo, è una cosa allucinante, ma lui è più basso di radio, è molto meglio Mario. Io non lo ascolto, non ascolto, c'è quanto se ne nega lui. A me bene mi ascolti, Tino. Sì, tu sei Santiago 8, quasi dai, 7, 8, dipende, Radio 5, ma tu sei qua in zona stesso. Sì, io sono qua, Radio 5. Me lo sono immaginato, sì, già ti ascolto bene. Tra l'altro arrivi sparato qua. Già va bene. Andare. Ah, pure tu in zona, sì. Sì, io sono a casa mia. Ah, certo. Una bombetta. Beh. Io però vorrei che non sono. Guarda questo, Luca. Si è migliorato. Poi mi dai conferma anche tu, quindi che sei più lontano. Come segnale è sempre uguale, la radio è più bassa. E io. Bene, e tu cosa mi dici? Tanto era più forte. Ah, mi mettete d'accordo, va bene, cambio. Oh, l'altra radio è la superiore, un abisso proprio. Questa non è male, però è bassa. Ehi, Lu, sai cos'è? Il microfonino piccolino là, del Baofeng. Questo invece è più serio, dai. No, non serve a nulla, ce l'ho nuovo. L'ho attaccato una volta per provarlo, nuovo, c'ho l'auricolare anche. No, non le sto usando, perché non serve a niente, lo vorrei modificare, cioè cambiandogli la capsula magari a farlo uscire più chiaro. Lascia perdere Luca, non concludo nulla, fregatene, l'ho già provato io. Allora già se ne sta andando la scatola. Purtroppo è così, accetta solamente quell'impedenza e basta, non accetta altro. Vabbè, là che sto uscendo, adesso, al limite ti chiamo fra un po', là, dal tram. Se mi ascolti, avanti, se no già ci sentiamo fra un po'. Ehi, va bene Antonio, ci si ascolta, dai, ciao ciao, riprendi bene. Ehi, ciao Antonio, sono un secondo dallo speed, ci sentiamo fra poco, fra 5-10 minuti non di più, intanto vado quello vicino a casa. Ok. Vieni, e tu? Non si lamento? Ehi, sì, caricando il mezzo, e tirato, già fa da più la terra. Ah, bambini, come adesso, due giù. Ehi, vabbè, ci vuole un po' di riposo. Ehi. Andare, andare, e tu Lu, a riposo? Lo stesso, anch'io a riposo. Meno male che il polso si è ripreso come prima. Qua così già la sto facendo, cazzattine così, dai. Qualche tablet così. Adesso qualche telefono da riparare. Come devo portare, anzi, due telefoni e un computer. Quando è che andiamo con Carletto, Mi sa che andiamo. Una mattina gli ho detto che scendevo. Ma tu vieni e andiamo a calamare. Ah, cosa, pulpo. Ma devo far coincidere il giorno, No, già me l'ha detto anche a me, però. Infatti, mettetevi d'accordo con Luca. Così facciamo tutta un'uscita. Benito, ormai non è più marinaio, No, sì, ormai non sono più marinaio. Mi senti qua che sono in cameretta? Ti sento basso basso, Benito. Quasi niente. In cameretta sono adesso, è dall'altra parte sono. Quasi niente, bene, in mezzo a quel rem non riesco a capirti. No, qua arrivi, vabbè, sono vicino, vabbè, arrivo, va bene. Senti, se il mare è buono, se tu non vuoi sgumare tutto a incazzarti, se il mare è buono si può anche andare. Una mattina glielo ho detto, vieni, poi anche una giornata bella, dai, no, se è freddo, non penso. Vabbè, una domenica mattina si può andare, è giusto così per provare, se no non ti crea nessun tipo di problema. Domenica mattina però dovrei essere almeno, ma di domenica no, a meno che sono in campagna, ma è domenica. Però non lo so, perché noi siamo fuori entro questo mezzogiorno, di due e mezzo, una cosa che si fa l'una, si vede l'una, vabbè vediamo ora. Vabbè, quell'ora già va bene, uguale, dai. Rientrare a quell'ora va più che bene, anche se va bene a tuo fratello. Tanto Carletto esce verso le 7:30-8, non meno di fine adesso. Fai che noi ci andiamo verso le 7:15 lì. E poi vediamo. Tanto non si sposta manco più di tanto, dice due miglia. Vabbè, già lo so. Vabbè, dai, vediamo, vedi un po' tu se coincide. Adesso devo guardare l'agenda, se questo qua ha qualche partita, ma non credo. Se no, magari se vuoi andare tu, fai trovare lì al porto, ti fanno un'uscita con lui. E andiamo assieme, dai, che ci divertiamo di più. Poi, al limite, mi fai sapere cosa bisogna portare, a parte uno spuntino. Sì, certo, si chiama spuntina in chi bisogna piccare. Ah, poi magari quando rientriamo, spuntiniamo. Tu non ci conosci a noi quando siamo... anche l'acqua bisogna spuntinare, non è che... Vabbè, dai, già ne parleremo comunque. Senti, ma se non c'è tempo cosa vuoi spuntinare? O andare a piccare o andare a spuntinare? Ma mangiate mezzo panino, non c'è tempo, non dico io, mezzo panino, allora già va bene, dai. No, così sono curioso, dai, per vedere un po' questa pescata di polpi. Mi sembra che ho anche due zampe di gallina in freezer. Poi c'è qualcuno che vuole entrare, ma non lo sento io. Vieni, prova. Guarda. Sono in cameretta adesso, mio figlio, in cameretta perché stava scaricando. Certo che in cameretta si sta scaricando il portatile. Aspetta, prova a parlare nuovamente. Sì, sono in cameretta perché si stava scaricando, là l'ho messo nella base e sta caricando. Se no non mi sentivo più. No, ti ho sentito malappena con la verticale. con l'altra non ti ascolto. Va bene, ho capito che stai caricando, va bene. E ha detto che l'ha messo nella base e sta caricando oggi. Se no non ci sentiva più. Andare. Ma tu non te lo guardi quel programma lì a canale Alfa, lì a 59? No, e cos'è? Basta girare, lo vedi. Che ne via poco pesci strani, amicidiale. Ah, no, ti dirò, vabbè, io sono in salone, il televisore lo sta adoperando mio figlio con un gioco e quindi non lo sto guardando. Ah, ho capito. Poi ho visto un video, questi qua, non so cosa sono, forse, no, sono... non sono italiani comunque, sono tipo marocchini, cose del genere, non so. Hanno buttato dei pezzi di carne in questo fiume, tu devi vedere, era pieno di piranha, pieno, non so quanti c'erano in mania, ma carne, pezzi grossimi, tipo da chilo, chilo e mezzo, i chili. Tu vedi i piranha, non ti brincavano, a magnarsi di cagarli, cose da fare, è cosa che tu in Eva, mamma mia, ti magna niente. Sì, l'ho visto anche su Facebook. Sì, già l'ho visto, due pezzi di carne grossa, ma in un fiume, cazzo, marrone, piragna, già l'ho visto. Sì, quello lì, cazzo di giù, c'è cosa ti ripete a muglio, mamma mia. Vabbè, ma poi, sai, quando non si conoscono queste zone, uno non penso che sia avventuri. Oh, ma Isu, non so cosa intendi. Carità, tu convinto due altri dosi. Illuminami, che non riesco a capirti. Il bello del latte dolce. Ah, ma quello che sei ginocchio. Bravo, è proprio lui. E vai a coccio. Io entro, stai facendo il pane. Ah no, sai cos'è? Molto sicuramente sta arrozzendo funghi. Sì, sta arrozzendo funghi. Con che tuo freddo, vola? Ma quando si faccia fuoco, freddo non ce n'è, perché ieri non ho fatto arrosto io. Ieri notte? E allora, mica avevo freddo. Vabbè, tu dovrai sopra, non si faccia fuoco, non ne prendi freddo. C'è qualcuno che vuole entrare, tu se lo senti, boh. Sento la portante, ma non arriva qua. Io sono in campugna. Ascolto poco e niente agli altri. Che vuole entrare avanti? Sento qualcuno, sta parlando. Attenzione, il bello della teoce. Alla Indelugu. Una casa santo, pescava ricci senza autorizzazione. Stai parlando, vieni. Ho detto, ma non è che Luca sta rostendo lunghi invece di funghi. Salve nomi, a minghi, no a munghi. Ha sempre quella macchina lì, c'hai Benny, quella che hai comprato. Veglia, sempre quella. Sempre fiammante? Sempre. Quando uno poi vabbè, tu già ti arrangi sul motore anche. Sicuramente la volete li fai tu, mi te la porti al meccanico. Vabbè, quello sì. Penso un bel di denari fai miati, ma un bel. Oh gufo, ma ti serventi si visiti, chi si bucaccioni? Senta che ho computer, che non toccavo più allora. Luca Rie! Chi è? Giulio! Lodando! Arrivi bene col PMR qua! Beh, ogni tanto esce a pizzo! A Londra! Uiaia! Vabbè dai! No, ero lì sulla. Ero il 27 e sono tutti. Se ne sono andati tutti. Hanno tutti da fare, per cui si vede che c'è poca voglia. Va pure, dai. Adesso anch'io chiudo. Ci sentiamo. Ciao Lu. Ciao a tutti quelli che sono sul canale. Care prossime, ciao, chiudo. Me ne vado giù e mi metto al computer di nuovo, ce l'ho tutta la sera. Ciao Luca. Ciao, Gio, anche tu arrivi benissimo qua, dai. Avanti. A me non mi ascolta. Ciao Giulio, ciao, buona serata. Ciao T, come non ti ascolto? Ti ascolto benissimo. molto forte anche. Ciao T, chiudo, dai, ci sentiamo le prossime, ciao, quando vado giù. Va bene, siamo qua. Benito, bene. Eia, posso parlare per un momento, stavate chiamando. Ciao Giulio, se riesci a ascoltarmi. Lo ascolto basso basso, è incomprensibile, dai. Ma vedi, la voce non la puoi sollevare un po', no? E guarda, io sto parlando normalmente. Scrivi, non ti tengo manco io. Mi c'è la bocca. No, lui sta parlando a voce bassa, lo sento. Aspetta che attacco l'altro microfono a vedere. Io gli metti un filo fuori, boh. Guarda, Lu, con questo non mi ascolti. Sì, ma se non alzi la voce è inutile. Perché quando sollevo il volume tocca abbassarlo quando parla a Tino, se no mi si cura la colonia al naso. Io sto parlando normale, vabbè, Tino è un bel più forte con quel microfono che c'ha adesso. Quello di prima no, ma adesso è forte, come poco fa. Sì, ma questo microfono che hai messo è quello piccolino, no? Ehi, questo è il piccolino, quello di Palmare. Ui, per carità, sei ancora più basso. No, Luca, qua arriva meglio, qua lo sento meglio. Vabbè, ma lui sta comodo perché così non sta ogni volta a abbassarsi per parlare. Beh, il microfonino è modulo allo stesso. Infatti, bene, l'altra volta ci siamo forse incrociati, tu ce l'ho il fornitore. Mi è sembrato di sì, infatti io mi sono girato, ho guardato, però c'erano altre macchine, non sono riuscito a vedere, ho visto la sagoma, però sai, quando guardi dietro l'antenna, cosa, non so, altri mentre la dormi, no? Non ho visto l'antenna, ho detto, ma forse non era lui. Perché anche a me mi è apparso, ti ho visto all'ultimo momento, dai, ciao, quando sono uscito dalla rotatoria e poi sono andato dritto. E allora eri tu, dai. Infatti ho detto, lo devo chiamare, poi mi è sfuggito di mente, facendo altre cose, tra una cosa e l'altra, ma me lo sei immaginato che eri tu. Sì, dai, ci sentiamo, dai, ce lo prendiamo un caffè prima o poi. Sto iniziando a sentirti basso, benissimo, parla a voce alta, chi ha chiamato? Boh, non lo so, ho sentito uno chiamando, però non ho capito chi era. Livello QRM non riesco a capire. Ma sta parlando? Luca! Sì, sì, sono qua. Cava. Ma tu non sentivi nessuno parlare? No, lo sentivo portante, tipo, sai, quel segnale che fai. Mi apriva lo squelch, però non sentivo. Non sento, non so chi è. Allora già, come me, dai. Ehi, non so chi è. Ma sai che questi apparecchietti basta un ostacolo e sei buttito. Vabbè. Vedi, per esempio, l'altra volta ero qua, a questo punto, e non mi sentivi tu a me. No, vabbè, però devi tenere conto una cosa, che con Luca abbiamo fatto un lavoretto, quindi abbiamo spostato l'antenna di circa 3 metri e l'abbiamo alzata di almeno 2 metri, quindi la ricezione è differente, capito? Soprattutto in queste frequenze. Ecco perché arrivi sto sparato. Pari nuovi, pari. No, ma anche con l'altra insomma dovrebbe andare la stessa cosa perché è lì, è puntata lì quella autocostruita che mi ha fatto Luca. No, arrivi proprio a fondo scala, la radio è super. Mi guarda, adesso ti metto l'altra che è diretta lì alla tua voce. Qua sei a fondo scala, la radio è perfetta. Confermo, come forte. Allora, guarda, questa qua è quella autocostruita da Luca, magari cambierà la modulazione perché sto usando il pallarino, Sì. No, segnale è uguale, però la radio è più bassa, il palmarino sai come esce, un po' nasino alla radio, ma ti arrivi lo stesso, arrivi bene, dai. Confermo. Credo che siano uguali, Guarda, prova a verificare, benissimo, se cambia qualcosa di segnale con l'altra radio. No, nulla, uguale come ti ha detto Luca, è così, io ti sento come ti ha detto Luca, la stessa cosa. Vedi, quindi poco cambia. Solo che questo è il Baufen, quello piccolino, solo che lo sto usando in altre frequenze e quindi mi è più comodo questo, va. Vieni, perché non ti vedi? metti un'auto costruita anche tu lì, così almeno ti divierti. Senti, io adesso più avanti, adesso non ho ancora niente, da. E poi se non metto anche sempre un bugiolone nell'altro, quindi non fa. E me la faccio fare, da Luca, una di quelle piccoline, le posso mettere o di qui o di là. Da una parte o dall'altra, adesso devo vedere. No, lascia lì su direttamente. È una piccolina, neanche si vede. E poi va bene come quella che fa lui, dai. Vabbè, quello si sono solo che fa bene. Adesso vediamo un'altra strada, se non avete magari tutti contenti per l'antenne, no? Credimi, Bing, faccio fatica a ascoltarti, se non alzi appena la voce. Ho detto che devo vedere, poi non so se qua poi vogliono, capito? Quello che vuole volere, buone razza, fruttitini. Vabbè, quello sì, è vero, però sì, secondo come è la metto da un'altra parte, capito? Vabbè, sei di spalle però dall'altra parte. Lo so che sono di spalle, però cerco di sollevarlo, poi vedrò. Ho capito. Andare. Sto usando di corporino, lo senti? Sì. Sì, ma non esce questo granché, dai, esce un po' cupa a radio. Vabbè. Tu come mi ascolti, vieni. Sì, è leggermente più occupato. Sì, quindi buono, poco lo usiamo. È comodo, perché la radio è poggiata. Vabbè, quello lo metti da una parte in modo che prende il segnale, come si deve, vedi, io l'ho cercato di mettere dove mi senti bene e tutto quanto, e poi quello qui mi allungo io. Non vado sempre alla base con la faccia, capito? Ce l'ho in mano e tu, come tu. Ollù, prova il foro, allargarglielo appena appena. Perlomeno Luca ha fatto così in questo e magari sì. Sarà sempre una gira, però un pochino più forte. E così farò. Domani ci provo. Perché dice che non andava. Allora ha provato a forarlo un pochino e è andato meglio, là. Sì, ma infatti. Domani lo faccio. Lo vedo, comunque vedo che è piccolissimo il trucco. Molto sicuramente ti sta finendo la batteria, perché non stai più arrivando qua, eh? No, mi senti adesso? Sì, ora sì. No, come si è spostato un po', la batteria è carichissima, è carica, sì. No, anche perché prima mi arrivavi con un segnale quasi 5, dai. Adesso niente segnale, però la radio c'è. Ora adesso non c'è segnale, ha detto. Ora sì, ora si è ritornato quasi 5, dai. 4, 5, 4 e mezzo. Perché basta ti sposti un po', sì, è quella la messa. Sì, sì, ma già va bene, la radio è rimasta sempre la stessa. Peccato questi microfonini, ma sono aperto per vedere se potevo cambiare la cassa, ma quelle che io sono un pochettino più grandi, quelle che sono i telefoni lì. Io volevo mettere una di quelle, ma queste qua sono più piccole. Vanno bene quelle lì, quelle del telefono, va bene, sì. No, sono più grandi, non ci passano. A meno che ne tagli il pezzo là dentro, dove c'è, diciamo, c'era... Ma finire dentro, no? Pensavo che andava, insomma, che andava bene del tutto senza fare modifiche né niente. Perché mi ricordo che quella del P5, per dire, avevo messo una del citofono. Ma sono una mezza fregatura questo microfono. Vedi, adesso ci sto benissimo. Ehi, perché l'ho staccato il microfono. In confronto a prima la radio infatti è differente. Perché questo foro qua della radio è più largo. Infatti vedi, magari facendo la stessa cosa al microfono lo cambia anche lui. Sì, domani, forse me lo porto a casa, domani proprio. Andare. Vieni caricato, Ari. Caricando stati. Sta caricando ancora. Vedi, adesso ti ho sentito anche un pochino meglio. Anche infatti dipende anche dalle batterie, se c'è poche batterie non riesce a mandare molta corrente sicuramente, questo serve corrente, però è lì il scaffio di watt. Infatti. No, io invece ce l'ho attaccato la basetta con il microfonino e vabbè, l'antenna è quella là, quindi rimane fermo così lui, non so a girare a zonzo. E beh, così è l'ideale, sì, perché io se è l'antenna è da fuori, quindi sparava lo stesso, invece qua, secondo me ti metti, già lo sai. E allora? Domani rientri, Benì? No, lunedì rientro, lunedì. Ah, una settimana allora? No, è iniziato da ieri, l'ho fatto ieri, l'ho tratto il tugante oggi e domani, sono fino a venerdì, là, domani è venerdì, e poi rientro lunedì. Ah. E comunque lo lascia, siamo qua. Se vuoi entrare, lo lasci caricare. Se vuoi entrare, siamo qua. Sì, è positivo, dai. Domani sera provo anche da giù, da un'altra parte. Sì, sarà un po' più difficile da giù, per me. Capito? Io dovrei sentire, però, vabbè, dipende da che ora, beh. E intorno a quest'ora, da che ora è? Vabbè, non manco che ora è. Sono le 7:30, intorno a quest'ora faccio una prova. Ma giù dalle parti di giù dove eri prima? No, vicino a Gigino. Beh, vicino? Vicino a Gigino. Ah, ho capito. Boh, può darsi, non lo so. E proviamo, perché devo provare, ancora non ci ho provato, quindi vediamo. Eia. Per dire, io con questo qua stavo facendo un lavoro lì nel dov'ero? Lì alla camionale, dai, un po' più giù di dove lavoravo prima, che stavo facendo delle saldature, e l'ho portato perché se no non ci vedevamo l'uno con l'altro, perché lui doveva tirare dei tubi col trattore, no? Io stavo saldando dei tubi in politirene e quindi dovevo dirgli quando fermarsi o meno. E ho parlato con Luca, con Gio Maria, insomma è abbastanza lontano, non è che andava anche bene. Poi anche lì a Istivanno, però in un determinato punto, perché se mi mettevo in spiaggia mi sentivano tutti, se invece stavo dove volevo l'auto, no. Ma poi ti ricordi che con questo che ho parlato con te quando eravamo giù a cosa, il giorno del rally? Ah, sì. Quindi dipende da come sei, a campo aperto, dove, in che punto sei, dipende sempre dalla zona, infatti. Beh, certo. Mi devo allontanare un attimino, dai, sentiamo dopo. E io dopo, vai lui. Beh, non ti senti. Lui, non ti senti. Lui, se sei tu non stai uscendo, Vabbè, ci sei Benì. E io lui. Come faccio la Graziano? Sempre in una cultura con un computer. La vecchiaia già diventa un'altra. È un crack. Ma poco fa hai detto che tutti i fatti ti stavo dicendo, che tu non stai dicendo. No, ero al telefono, mi hanno chiamato per un lavoretto. Buono. Io, ma chiavetta, te ne ricordi? Guarda che, guarda un po', Tino, 1, 2, 3, prova. Lo stesso, non ha cambiato niente. E allora non lo so. No, magari ti sei spostato. No, sono sempre alla stessa posizione. Guarda, sempre lo stesso, non ha cambiato quasi niente. Anzi, per dirti la verità, non ha cambiato niente. Non lo so, vabbè, io lo lascio così, buonanotte. Sì, sei 5 traballante, capito. E comunque... Se va bene di sera farà nulla, dai, tanto è subito ora di magna. Sì, tra un po' sì. E allora ti fai questi giorni di malattia, così Sì, già, questi giorni di malattia. C'è una specie di bucci con il dolce, non col passo, credo che mi ha fatto appena la strappone. Adesso con la pomata sta passando e cose che non tengo. Sta diventando sempre più piccolo. Sì, ma ti rifugi un po', dai. Ci vuole un po' di riposo. Sì, cosa si vuole? Un po' di riposo non è facile, è buono, però. Qui trovare un po' di cose, gente. Mi stanno aspettando. Io mi ho mandato un messaggio adesso al mio compagno e anche al collega di lavoro. Che lunedì, questo mese, c'è già un paio di giorni da fare. 3 ore come sono, sempre le stesse. Sono fare più e sono prima del pallone, infatti mi pare sempre. Ma non vengono pagate? Oh, non so, come... E come si dirà a porta che tu non li sono già pronto un altro, quindi tutti agli minuti ti pagano per le tue 8 ore, e poi sono 7.40, dai. Tu te ne fai 10 dolci così? Infatti, quindi se invece ci sono la mattina stai alla gara e se non stai alla dottore. E molto volte anche 16 non so. Ma come hai detto tu? Se vuoi gusti, se no mi guarda, io ne ho piccia. Guarda, l'unica cosa che c'è di buono è se ti serve un giorno, se ti serve un giorno, non ti segna sempre ore di lavorativa, che tanto non è quello che non faccio, no? Ah, te la segnano come lavorata? Sì, te la vai, tipo ti prendi un come adesso, no? Tipo uno, ti prendi e allora ti segna che stai lavorando. Te lo ricambiano, dai. Quanti anni ci sei lì, Beni? Quanti anni ci sono? Diciamo da 95, là. Poi ho cambiato e sono andato in quell'altra vita, però ti ricordo che ti avevo detto padrone anche in prima sera. Poi con la vita hanno spostato gli artisti e così mi hanno spostato tutti e sono tornato di nuovo per fuori, alla Gambia. È sempre lo stesso, lui, padrone è sempre lo stesso. Il padrone è sempre prima sera, anche se nell'altra vita non figurava, figurava un'altra persona, no? Che adesso è più con il ragioniere e tu adesso, capito? Yeah. È un casino, purtroppo se ne ha bisogno uno devi travagliare. Beh vabbè, tanto che sia assicurato e poi un domani ti pigli la pensione, guarda la puttana. Sì, quello sì, tu. Ma manco mai rimane di più grazie. Anche se tu hai avuto problemi non ce n'è, ti dovrei tornare giù, capito? Invece l'altro collega sì l'hanno fatto rientrare, sì, è stato in busti, è stato curato e adesso è a casa. L'hanno messa a casa? Sì, l'hanno messa a casa, ma è stato in gruppo parecchio, dai. Ha fatto delle cose che non doveva fare, di dire che il padrone che comandava lì nel campo lì, ha visto che era stato a casa. Ho capito. Vabbè, comunque, diciamo, come lavoro non è pesante, dai, devi guidare, fare chilometri così. Per guidare, fare chilometri, caricare, caricare, ma io sono anche magazzino, non è per il figlio. Sono anche magazzino, anzi, ti dirò tu, il magazzino fa il lavoro, tu fai il tuo lavoro, ti guidano. Beh, certo. Sempre raccoltavo gli usati, così, non mi ricordo male. Sì, quando la chiamo la stessa non faccio quello, invece quando la chiamo magazzino, fai di tutto, no? Sì, tu sai che fai la raccolta delle quelle all'ospedale le medicine, quelle pericolose. L'insetticida c'è anche quello facciamo, quando esci con un furgone fa anche l'altro, fai anche le altre officine, falegnami, ricchi di solventi, barattoli, tracci, tutti gli oggi, quello che, capito, raggruppa il nostro settore, però si parla. Sì, sì, infatti non mi ricordavo male. Ma questa roba dell'infettivo va bruciata poi, no? Sì, quella va l'infettivo, le scarpe le vanno direttamente preso, caricato e sono fatti a caglia, la bruciata. Guarda, non si deve lavorare, quindi la bruciata. No, perché quando c'era mia madre ricoverata, vedevo che buttavano tutto dentro questo coso, lo chiudevano bene, c'era scritto roba pericolosa, buon pericolo, comunque roba... e i libri speciali, così da dire, se non mi ricordo. Sì, c'era l'R gialla, cioè l'R nera con lo sfondo giallo e c'era scritto i libri speciali a rischio di tutti. Sì, sì, sì, sì. E vabbè, poi, cioè sì, già li vedevo che buttavano tutto, quando facevano le punture tutto lì dentro. Sì, vabbè, là non lo tengono, non è che non tengono un conto di storia, che se noi non è venuto, capito? Ma vabbè, io tendevo, cioè, tendevo le siringhe senza aria, sì. E l'ago lo mettono nel contenitore. Le siringhe ti sono prendendo nel contenitore. Vabbè, purtroppo si vuole qua, così è. Il lavoro funziona così, se non uno va di tu già manda un altro. Vabbè, così sì, adesso hanno preso... Sono due, tre ragazzi di quelli a 3 mesi, 4 mesi, quelli che sono nel le cooperative, delle cose così. Con il furgone, no? No, no, a lavorare dentro, sì, a lavorare dentro. E dentro cosa c'è da fare? Politiche, naturalmente, le rifiuti, cose, quando arrivano le vernici, ci sono le vernici nel solvente, le vernici all'acqua, fatti la vernici. A quelli a desidere, no, svuotare le baracche, le cose, mettere dentro qualcosa, fare tutto un malloppo, dai, diciamo, da sicuri. Ho capito. Che fai? Sai cos'è, Beni? Cioè, fanno la questa vernice una pure dopo la portano. La riutilizzano questa cosa. E lui, perché il bianco lo mette tutto da una parte, bianco con bianco, perché invece i colori li uniscono tutti qua. E quelli vanno in continente, li portano su e reciclano, capito? Poi invece negli altri codici abbiamo tutti la storia, cose, se i soldi da una parte, se non dall'altra, non è tutto il tutto. Ma devo lavorare su questo. Confronto, dai. Ma tu pure a Cagliari scendi, no? Sì, anche a Cagliari, sì. Certo, lì sei tosta, Lì devi partire presto, no? Stamattina. Guarda, lì sono andato un mese scorso, il francese, per fare l'aspirazione di quelli volati interno, alle 4 e mezza sono partito da qua, 5 meno un quarto, dai. Quanto ci metti più o meno? 3 ore? 4? Allora, ci ho messo a scendere 3 ore e mezza, poi a salire ci ho messo di più perché ero carico, un po' di più, ci ho messo quasi 4 ore, dai. Poi mi dice, vabbè, la pausa, di vita, quindi mai, lavoro al cliente, ci ho fatto tutto il giorno. Sono arrivato la sera, che era un giorno fa passato. È una foraccia, mamma mia. E voglia. Vabbè. Chi sceglie quel tipo di lavoro, se lo deve portare a vita. Poi io, che se non finne, mi fai altro. Vabbè. E la cosa non l'hai più visto, Fortunato. Fortunato qui. Fortunato, quello lavora, ma che figlio lavora lì, lavorava da cosa, da Cione Parugi. A Bugno, io pure mi importa, non me lo ricordo. Io. Fortunato, che lavora da Nieddu? Non me lo ricordo, no, non ho proprio nulla, è Cione Parugi, non si chiama via Cione Parugi, si chiama Apiella. Scusa, no, aspetta, no, da Eurosarda lavora. Ma che c'è anche il baracchino, cioè, già lo conosci. Non mi ricordo. Tu mi dici che lo conosco, però non mi ricordo chi è. Pensavo, che lui scende sempre a Cagliari. Scende spesso, capito? Fortunato Lacchi. Sì, Fortunato Lacchi. Se capisci, il nome mi ricordo, però lui non me lo ricordo. E scende anche con l'altro furgoncino, da 30 anni non mi dice, a 170 va, eh. E va, cammina, quanto sono di chilometri in realtà? Allora, quello lungo è un 3.000 di chilometri, no, questo è 3.000 sono adesso. Adesso invece ho preso due nuovi, io sono più piccoli, sono 2.500, infatti non va a ridere, non mi dice a 170, ma gli altri dove cazzano, che cazzo avevo bisogno? Meglio, sei contento, metto una macchina, cammina. Infatti quelli sono con patente B, capito? I furgoni sono con patente B, hai un po' di quello che c'è, quello là, nel conosciuto tutto, quello che va più. Ma non è che la mia vita viene dove la trappata, a mano e tono. E beh, tuo fratello sembra stava lavorando. No, sono testa perché non lavoro con te figlio. Ogni tanto stanno in continente con quelli che hanno rilevato la vecchia vita che c'aveva lì e si fa un po' di lungo, una settimana là. Ah, ho capito. Casino, non è più travaglio, no? Non è più come prima. Aria bassa. Aria bassa, infatti. Appunto, perché non vai a quella che avrebbe detto di già una volta? Tipo, vedi quanto stavo parlando poco fa, che quando serve qualcuno li prende, non dico a me. Con la patente B sempre, no? Sì, con la patente B, vabbè, da noi si deve entrare da noi a fare l'autista che no. Non lo stanno cercando, però da noi ci vuole la DR anche. Ah, ho capito, la DR. Ma sai cos'è? Guarda, io i miei lavoretti, non sai quali sono, no? Se lui si mette in quel campo, conosce qualcuno magari, mi prende in prova, vede un po' come lavoro, se lavoro come dice lui, va bene. Io non è che mi posso, alla fine non me ne sto con le mani in mano, sempre già lo trovo quello da fare, e qualche spicciolo lo levo sempre. Ancora sì, ma so, tu pronto che ti fai quindi con me, perché lì anche cioè io ce l'ho andato, no, quando lo so, e lì metti il campo che ti interessa a te, dove sei più bravo, allora a lì ti chiamano in quel campo lì, non capisco, non ti devo dire. Sì. È un casino, e mai mi farò un salto. Vediamo. Però io sarà possibile fare questi lavoretti qua. Così. Non so come, più o meno so come gestirmi il lavoro. So dove mettere le mani, diciamo, dai. Da scarpa, da scuola, che ti mai avvicinato? Da chi? Scarpa, cose, dove fanno anche riparazioni, ti sei mai avvicinato a chiedere? No. Una volta sono andato lì, ho detto qua, sì, vieni, avvicina, se mi fa bisogno uno, sono andato. Mi ho spiegato un po'. E ho visto come lavorano loro. Però sono già dal fatto che io gli ho portato dei display, cioè display buoni con il vetro rosso, però hanno il macchinario, non attaccano il vetro da sopra, sono puliscono bene poi il display, poi hanno una colla e gli rimettono di nuovo il coso, no, il vetrino, e mi voleva avvicinare, già da lì ho visto, boh, ha giumulato giù, come su cui è andato. Cioè mi voleva dare 5 euro a display, cioè un display nuovo di un iPhone 5S, nuovo, display perché è un vetro rotto, no? Ma display sono nuovi, 5 euro, dai, torna a me andare in due. Ah no, sì, ho tenuto voi a te agli altri, no? Ah, infatti, poi sono tenuto io, e non c'ho macchinario per staccare, per separare dal vetro, dall'LCD. Se no me l'avevo fatto io, e mi avevo fatto un bel di nao, guarda, un bel, ma insomma se me ne capita un telefono che purtroppo non li posso fare, insomma li fatto un bel di soldi, ma un bel. Come li mettono al tipo, cioè, a scaldare, no? A riscaldare e poi si stacca, un po' come te. C'è questo macchinario che scalda il vetro, te lo porta a temperatura giusta, perché se hai più temperatura rovini il display, e ti separa dal vetrino dall'LCD. Come fa a ingegnarsi a fare queste cose tipo con il phone, No, ci vuole una base che tenere fermo il coso, sì, si può fare volendo, c'è questa specie di cosa, no? Di chiamiamola una morsa, ecco, tu ci appoggi il display, scaldi la temperatura giusta, devi dare, però se no se sbagli lo rovini il display. E poi con una specie di corda sottile, tipo corda di chitarra, ce l'hai presente, più sottile, proprio fine. Quante di busto di, quante un filo di da cucire così. Una volta che cado glielo passi tra il vetro e il display. E piano piano lo muovi e lo separi. E poi non ti riesci a costruirti un qualcosa del genere. Ma ci vuole il separatore prima, c'è questo macchinario che separa dal telefono, separa display dal telefono, capito? Perché è incollato sopra. Poi una volta che tu ne hai stacchi tutto il blocco, c'è il display col vetro e devi separare quello. Se non c'è quella macchina che separa il display dal telefono non puoi fare niente, come fai? Lo rompi. Qualcosa, non te l'ho guardato, qualcosa su internet, l'avevo guardato, no? Diciamo che ci vuole spazio prima di tutto. Perché se vabbè, quella d'aria calda ce l'ho già. Che ci vuole? Questo qua per separare, come ti ho detto, dal telefono, il display, e poi c'è quella per fare il vuoto. La macchina del vuoto. Eia, ho capito, la macchina del vuoto, infatti per il coso dell'aria. Dai, lui mi stanno chiamando. Buona cena, ci sentiamo più tardi, dai. No, più tardi non ci sarò. A dopo, ciao, benissimo. Eia, alla domenica. ragione, a domani, ciao. Sì, ciao. Dove che aiuti? Ah, ci sei, sì. Sì, a voglia. Che stai facendo? Cosa c'è? Film. Qua c'è qualche film, ho detto. Ho detto se c'è un film. Non è che ti ho detto, non è vero. Ah, ho capito. E allora, ho capito. E Ale, cosa stai facendo? C'è quello della TV lo stesso? No, la TV sta guardando, Ale. Ah, ho capito. Quindi, è per i fatti suoi. Ci va bene. E Daniele, stava per le balle, no? Povero Daniele, poverinetto. Lo so, tuo fratellino, cosa devi fare? Devi tenere conto, più che altro. Andò bene. Mi aspetta che faccia una cosa e poi dopo ti richiamo, va? Tanto devo scendere il telefonino a zio. A zio Giampiero, quel telefonino, beh, lo metto nel polso. Anto, dimmi. Ascolta, ma la macchina ha già venduto la vette? Aspetta un secondo, aspetta, poi ti richiamo. Cos'è Tottino, dimmi? Ho detto, la macchina la deve vendere o se la deve tenere ancora? Nulla sai. Mirko, ho capito che dopo parliamo, dopo c'è, non c'è problema. Aspetta un secondo che mi sta chiamando un amico. Dimmi Tino. Ho detto se tua sorella se l'ha tenuta la macchina o la sta vendendo. Aspetta Mirko, non parlare adesso. Dimmi Tino. Cazzo, quattro volte te l'ho detto, adesso lo schiaccia questo Mirko. E come fai a schiacciarlo? Ce l'ho sotto casa. Sono 2 metri ce l'ho. Dimmi Tino. Ehi, ti ho chiesto se tua sorella la macchina l'ha venduta o se l'ha tenuta o la deve vendere. No, se la tiene la macchina, capito? Ah, va bene, d'accordo, ciao. La macchina la tiene, quindi niente da fare. Nel caso dovesse cambiare idea, già ti faccio sapere qualcosa, ti faccio comandare direttamente da lì, al limite. Ehi, va bene, dai, d'accordo. Ok, vabbè. No, stavo dicendo a te, Mirko, stavo dicendo a Tino. Ciucchicciù. Aspetta amico, preparo il telefonino da polso a Gio Giampiero. 2 minuti. E poi lo scendo giù naturalmente, non è che lo lascio qua, no. Voleva quello lì, adesso glielo scendo, 2 minuti che lo preparo. Chi è là? Ciucchicciù. Mirko, dimmi.